Sì, a tema, c'è tutte e due in pandam. Cioè, un applauso alla coppia di affezionate che... Le super affezionate. Ma sono più super affezionate, loro due... Non dire volgarità, i signori dietro sono venuti meno volte, però anche loro sono molto... No? Dicendo che siete meno affezionati di lei? No. Facciamo, adesso risolviamo la questione. Le ragazze qua in questione sono venute 5 serate, giusto? Sì, vabbè, io vi faccio coppia, poi magari una volta c'eri tu, non c'era lei, non stiamo... Voi sei, ne anche quella che hanno vinto i signori! Anche quella che non abbiamo fatto. Un applauso ai signori! Che vengono, nonostante le cose becere che noi diciamo. Te hai un baffo meraviglioso, te hai un... Guarda che bel look che c'ha lui! No, ma anche il pizzetto, non è solo il baffo. Hai baffo e pizzetto, è meraviglioso, direi... Cioè, diciamo che il baffo è l'idea originale, poi il resto... Occhio che mi sembra uno piazzato. Quindi è pigrizia. No, mi sembra uno piazzato, esatto. Lui picchia. Ma io appunto sto facendo amicizia prima che possa picchiarmi. Sì, magari dopo faccio una battuta e non gli piace e non mi mena. Se no ti fai picchiare prima, così dopo che hai fatto la battuta allora, non ti mena una seconda una volta. Una cosa che ci tengo a dire è... Guardo la scaletta intanto. Padrone di casa è lui? No, io ci tengo a dire che io alla fine sono un mero autore, quindi faccio il comico solo per passione. Il vero comico, la vera star, quello che fa i film, quello che recita è Valerio Airò. Quindi questo posto lo riempiamo grazie alla personalità, grazie all'influenza che ha Valerio Airò nella vita e nel web. Quindi io sono un mero spettatore, sono il suo Sancho Panza, Don Chisciotte è lui. Quindi facciamo un grande applauso all'organizzatore della serata, Valerio Airò. Grazie! Faccia di merda! Me lo prendo tutto l'applauso! Faccia di merda! Me lo prendo tutto perché me lo merito per la bellezza, però il vero capo è lui e non tanto gli applausi, ma le botte, se qualcosa non vi torna, vanno a lui. Abbiamo tagliato i capelli assieme, te ne sei reso conto? Senza neanche metterci d'accordo. Ma guarda, potevamo venire anche con la stessa maglia. Io il primo giorno sembravo un pedofilo, tu adesso che sono passati un po' di giorni sembri ancora un pedofilo. Ma io... Sì, esatto, siamo una coppia di fatto oramai. Ma perché non facciamo presentare anche Enrico Veronica? Ma Enrichetto detto Harry, l'abbiamo invitato Harry, prima. Harry, dai, vieni a presentare vieni, con noi. Vieni, la mandiamo in vacca anche stasera, tanto è la penultima. Ma come l'ultima? No, la penultima, facciamo la penultima. Facciamo quell'altro. Tu vai a diaframma. Gran baffetti lui. Ma vieni, ma te l'ho detto. No, occhio. Prima, ho una mezza elezione, e l'altra mezza dove ce l'hai? Dove la tieni? E poi dice che è un comico. No. Ma lui è un paraculo. È vero, la verità. Un applauso a Tommaso Adami. Ma lo stiamo chiamando? Stiamo iniziando? No, gli facciamo un applauso. No, più che altro perché prima te mi hai detto chi è Tommaso Adami, è lui. Ma si è presentato? Si è presentato, quindi allora sappiamo che... Secondo me Tommaso Adami è matto, eh? Tommaso Adami, sei matto? Pochino, ci ho pensato, quindi potrebbe essere... Allora, va. Fammi un jingle. Facci una musichetta delle tue, Harry. Per cosa? Quelle da Tenente Colombo, quelle delle serie che guardi tu la notte. Il tema qual è? Suspense. Quanto dura? Tu fai un tappetino, un paio di minuti. Fai un tappetino. Ce la fai aggiungere anche una cassa? Vai pure a chiudere quando vuoi, Enrichetto. Ti hanno applaudito bene in 4 persone. Quindi direi che è il massimo. Beh, metà pubblico. Però una era quella bella figa bionda là. La bella figa bionda! Vai! Delicatissimo! Come sempre. Beh, bisogna comunque... Una delicatezza quella che hai tu. Bisogna comunque usare i termini che si confanno alla nostra serata. Ma vuoi dire qualcos'altro alla signora? La nostra serata. Ci sono anche loro. Ma chi? Ma sì, Enrico, sì. Ma le conosci? Ma sì! E chi è? Allora, ma te la sei già giocata? Sì. Ragazzi, sembra di essere da Funari al processo di Biscardi. Ma ormai anche un po'... parlano tutti, vale tutto. Sembra un po' anche Caramba che si offre. Comunque, signora, lei non si offenda per il bella figa, che poi va bene, un complimento, come direbbe Erfaina. Perché indichi me? È cucciolo, Ma ascolta, 45 anni ce li ha tutti, si vede, dai. Ma va a fatti i cazzi tuoi, ma tu puoi fare ste robe qua? Allora, a sto punto, quanti anni ha, signora, signorina? Ma io ho 45 anni. 36? 36, 45. Sai che le donne dicono la loro età meno 9. Sai, cioè, che lei... Sai che lei ha 6 anni più di te e tu sembri il suo zio? Mamma mia. Beh, ma sono, sembra un bellissimo zio. Ma che donna, che fisico, che portamento, che voce. Ma mettila all'asta. Va bene. No. Va bene. Abbiamo scaldato a sufficienza. Comunque dicevo, non si offenda perché questa è la serata, brutte persone. Ma dai del tu. Io no, io con le signore parlo, no, del lei, cioè, certo, se le chiamo bella figa, che... ma do del lei. E beh, per forza. Certo. Perché la vita è fatta di contrasti. Comunque la volta scorsa, fa conto, abbiamo fatto un upgrade, perché la bella figa era lei, cioè adesso siamo messi come tanto tu lei le con... Tanto tu lei l'hai conosciuta, per chi non lo sapesse, questa ormai è una fiction. Lui l'ha molestata 2 anni fa durante una festa di ultimo dell'anno. Non l'ho molestata. Io... Fai un sondaggio. Se un ragazzo ha una... Grazie, Enrichetto. Aspetta, però... Baciala. Bacio. Facciamo giudicare il pubblico. Se un ragazzo ha una festa... Aspetta, però devi dire quel dettaglio in più che dico io di solito. Aspetta un attimo, che qua è interessante. Dai, cazzo! Cosa volevi fare? Mamma mia! Ma vuoi salire anche lei a presentare? Certo, ovunque, in ogni pertugio, ed è qua. Vedi, alle volte la vita... Ma vedi, la volta scorsa c'era e te non sei venuto, bastardo! Non c'era. No, lei c'era. Sì, lo so. E te, no, sei un bastardo e non sei venuto. Tu non c'eri, come fai a saperlo? Lui sa tutti i suoi spostamenti, eh? Si chiama Sto... No, dai, che sembra una cosa minacciosa, no? E invece questa... Ma è minacciosa. Ma vai, Enrichetto è un ragazzo per bene. Comunque... No. Vabbè, va bene. Questo è il cappello per i soldi? Grandissimo. Ma che allora, non, che non credo ci daranno se non la smettiamo. Vi chiederemo dei soldi, perché... Per chi non ha pagato, ovviamente. Poi se qualcuno che ha pagato è molto generoso e gli scappano 5 euro dentro, va noi benissimo. Noi siamo molto poveri e abbiamo fatto mettere l'aria condizionata qua e dobbiamo finanziarla. Investimento mio e di Valerio, è venuto fuori. Ma te fai teatro vero, te fai teatro vero. Mi ha speso trailer, 1500 euro di climatizzatore, sono 4 split, quindi è una cosa che costa. Iniziamo? Iniziamo, però aspetta, prima facciamo il sondaggio. Ah, vai, facciamo il sondaggio. Un sondaggio. Io dico poi. Ah, no, io dico solamente. Anche che tu io voti. Non mi sono approcciato così. Ho chiesto, ma se un ragazzo si approcciasse dicendoti. Quindi, se lui arriva da lei e dice: se un ragazzo si approcciasse dicendoti. Te non sei molto bella, ma in compenso sembri anche poco furba. È giusto che lei si incazzi o no? Secondo voi, per alzata di mano, chi pensa che sia giusto che lei in quell'occasione si sia incazzata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, 7, Vitale 8, alza 10. La mano per goliardia, però. Vale, ma sei di lotterito. Sai che te la stai giocando, però, a mani? Non è, non ma è... perché? Ma perché giustamente quelli simpatici non alzano la mano. Infatti mi stupisce che lei si esibisca stasera. Ah, ma sei d'accordo, sì, ragazzi, qua ormai siamo alla Neuro. Andiamo, finiamo le 4 stanotte. Partiamo con il primo. No, che è 4? Hai detto presto? Tu devi uscire a un certo punto. Ma lei stasera c'ha il passaggio, può far serata con noi. Ma meglio. C'hai un'età. Partiamo con il primo, che ci ringrazierà per la bella atmosfera che gli abbiamo creato. Allora, il primo, per quello che la nostra tradizione vuole, è come sempre un comico di merda. Che si esibirà per primo. Noi l'abbiamo conosciuto stasera, quindi... Mai visto in faccia. Esatto, speriamo non ci faccia sorpresa, che sia un po' bravino. Potrebbe cagare sul palco, potrebbe fare di tutto. Noi ci speriamo. Sarebbe il suo precedente omonimo Adami faceva abbastanza cagare, quindi promette bene. Speriamo tu, no, addirittura il povero Simone che rimane, ci rimane male. E Tommaso? No, lui ha detto no, amico mio. Ah, Luzzi. E anche tu però, buonanotte. Eh no, pensavo ci avessi con Tommaso. Vabbè, dai, presenta. No, vai te. No, fai tu. No, mi offendo. Io dico il nome anche perché non mi ricordo il cognome. Tommaso? Adami! Come ci si sente ad avere anche pagato per sentire queste stronzate? Bene, in forma. Carichi? Siamo in 5, ragazzi, se non siete voi che dovete farlo. Grazie mille. Allora, innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori della serata per essere qui, e uno dei miei posti preferiti dove vedere stand-up comedy, è la prima volta che salgo sul palco qua a Milano, e quindi un applauso per l'ex Dalge. Applausone per l'ex Alge, che poi uno si potrebbe anche chiedere, giustamente, che cazzo vuol dire ex Alge? Ce lo siamo chiesti? Abbiamo delle risposte. Io alla fine sono giunto alla conclusione, ho messo un po' di elementi insieme. Ex, latino, quello che viene prima. Alge, avevo dei dubbi. Poi finalmente ho visto le tesserine associative con gli animali sopra e ho capito che è il nostro amico Simone Luzzi che si riferisce a un animale nordamericano con delle corna molto grosse. Sono stato a Yellowstone, ci stava un alge grosso così e alla fine ex alge. Questo più o meno è il livello delle stronzate che sentirete questa sera nel caso la presentazione non fosse stata esaustiva. Comunque sono molto contento di essere qua questa sera perché è uno dei miei posti preferiti a Milano dove vedere stand-up comedy, ma soprattutto perché finalmente è arrivata l'estate. Tutti che rompiamo il cazzo tutto l'anno, l'estate, adesso è arrivata però forse un po' troppo, cioè quando dicevo caldo non dicevo, cioè questo caldo, no? Magari un po' meno, sta bene comunque, però finalmente è arrivata l'estate, siamo tutti contenti, questo esodo verso il mare, lentamente le città incominciano a svuotarsi, a Milano, ora di Ferragosto, ci saranno la guida del Cenacolo, 3 tassisti e 45.000 cinesi, loro non vanno in vacanza, rimangono qua a Milano, tutta la comunità, e sono un pochino come i giocattoli di Toy Story, no? Quando se ne va il padrone, loro incominciano a prendere vita, fanno le loro cose. A Milano semplicemente i cinesi incominciano a fare le cose alla luce del giorno, no? Incominciano a realizzare i loro sogni, mentre nessuno li guarda, mentre nessuno li studia. Roba che tu torni a Milano a settembre, giustamente non ci sono più bastioni, c'è una muraglia, in centro non ci sono più negozi di moda, solo sedi del PC, così danno un po' di forza anche a partiti ormai dimenticati. Comunque a me fa un po' ridere questa cosa che tutti quanti cerchiamo di levarci dal cazzo, dall'AFA, per poi andare sulla costa e ritrovarci circondati da persone con lo stesso identico caldo. Con l'unica differenza che se a Milano però potresti farti una doccia fredda, bella freschina così, almeno quando vai a Milano Marittima puoi fare un bagno in un brodo di alghe e peli e a quel punto ti senti veramente un campione. Ce l'ho fatta, sono a Milano Marittima. Da questo punto di vista assomigliamo un pochino agli gnu. Gli gnu che attraversano la savana per giorni sotto il caldo con le zanzare. I cuccioli di gnu che muoiono, arrivano finalmente alla loro pozza d'acqua, che in realtà è una pozza di fango, con 10.000 specie di animali diversi, gli elefanti che si lavano, gli ippopotami che trombano, i coccodrilli che cagano nella pozza. Questa cosa non so perché, ma io il coccodrillo me l'immagino eretto, che alza la coda così e caga nella pozza. Gli gnu tutti contenti, lì che si abbeverano. Oh, ottima scelta, Corrado. Sì, guarda, no, più che altro qua almeno non ci sono i cuccioli che schizzano fango ovunque, ci sta veramente benissimo. Lì a mangiare schifo, Gelsomina e Corrado, due tipici nomi da gnu, comunque. E quindi niente, stavo pensando a una cosa che mi è capitata vedendo un post su Instagram, quelle frasi ispirazionali, ridicole, del tipo la vita è per il 10% quello che ti succede, tu la conosci, si vede, è per il 90%? Come reagisci, giustamente. Ecco, pensandoci bene, questo slogan dovrebbe essere lo slogan della Romagna. Pensateci bene. Loro si sono trovati con una palude salata, praticamente, e te la vendono, giuro, l'ho sentita da persone qua presenti in sala, come la California d'Italia. Ah no, questo weekend vado in California. In California. Ora, non so voi, non so se perché a me piace fumarmi le canne, ma io appena penso alla California ho un paio di immagini. La prima, l'erba. Ora immaginiamoci Snoop Dogg se fosse nato a Cesena, ok? Snoop Dogg nato a Cesena, ovviamente non si chiama più Snoop Dogg, ma a quel punto diventa cagnolone, curiosone. C'ha questo grande vizio che c'è sempre in mano la cosa, lì la, c'è sempre in mano una piada, no? Che hai voglia che con la fame chimica che ha accumulato negli anni vedi come mangia il cagnolone, no? Quindi mi immagino questa cosa qua, Snoop Dogg in Emilia Romagna, c'entra un cazzo, e poi comincio a pensare a Hollywood, alle palme, alle onde. C'è qualcuno di voi che è mai stato in Romagna? Per alzate di mano. Ok? Hai mai visto un'onda in Romagna? No, non una Civic Onda, proprio un'onda vera e propria. Qualcun altro? Hai visto un'onda? Quando tiravi lo sciacquone? Ah, ok. No, perché appunto io sono stato in Romagna e non ho mai visto un'onda. Ma anche se ci fossero le onde, non fa in tempo a salire sulla tavola per surfare, che tranci 7 teste, 8 braccia, un microonde e 2 cuccioli di Labrador, tutti in mare lì insieme. Quindi abbastanza inutile. Tra l'altro, piccola parentesi, stavo pensando agli tsunami, no? Come cazzo è che gli tsunami non tirano mai giù un posto che merita di essere tirato giù? Non lo so, capitano sempre in questi paradisi naturali dove la gente è poverissima e li distruggono per sempre, lasciano il paese in merda per 20 anni a venire. Mai una volta che capiti nel posto giusto. Oggi leggevo, non so se avete visto, dell'intelligenza artificiale, il dipendente di Google che ha detto che si è allontanato un po' dalla società, perché ha detto che l'intelligenza artificiale è diventata senziente, no? Ecco, la Silicon Valley, che è già una valle, no? Riempirla di acqua e tutti questi stronzi che muoiono e l'intelligenza artificiale che gli dice testa di cazzo, mai imparato a nuotare, eh? Loro pensavano di fare tutto quanto al computer. E un altro posto potrebbe essere tranquillamente la Romagna. Non ve la prendete perché ci finiamo di mezzo anche noi, ci sarebbe questa ondata di merda e fango che prende tutta la pianura padana, conosciuto anche come il posto più del cazzo del pianeta Terra. Però alla fine il problema vero sarebbe che arriverebbe fino alla capitale morale d'Italia, la nostra cara Milano. E a quel punto finito tutto, finito questo sogno durato secoli, però a quel punto ci sarebbero 2 fermate della metro che finalmente acquisterebbero un senso. Qua arriva la stronzata. Vai. E l'altra? Isola. Benissimo. Non ce l'ha pensato nessuno. Bene, andiamo avanti con le cazzate. Grazie mille. Poi in realtà si può andare più a sud solitamente. Comunque guardo soprattutto te perché mi sa che devi mettere un po' di crema solare la prossima volta che fai. Perché il baffone a manubrio spacca di brutto, però poi dici mica, però la crema solare voleva fare troppo il duro. Mi raccomando. Senza crema tutti, allora hai detto magari si distribuisce di più la scottatura tra tutti e io mi salvo. Il baffo a manubrio solitamente comunque... Forte ragazzo. E niente, comunque si può andare più a sud, si può andare... Tu dove sei stato al mare? Che sei così abbronzato? A Chiavari. No, ecco, vabbè, la Liguria è una regione che non dovrebbe esistere, siamo tutti d'accordo. Cioè, già un posto dove ogni volta che piove muore uno stronzo non è una cosa normale, no? Ogni volta che cade una goccia d'acqua muore una persona in Liguria. Pensateci quando lo vedete. No, si può andare più a sud. Sud Italia, bellissimo. Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna. Una bomba, spiagge incredibili, bellissime. Piccolo problema. Se usi una qualsiasi forma di ventilazione vieni considerato un coglione. Non si sa perché. L'aria condizionata non ne parliamo neanche. Ventilatore, già ti guardano e ti dicono, ma apri le finestre e crei corrente. Sì. Piccolo problema è che poi esci dalla corrente che hai creato e incominci a ustionarti, hai il fumo che ti esce dalla testa. Siamo andati in Sicilia 2 anni fa con i miei amici, l'Airbnb era completamente diverso da quello che avevamo visto online, ci siamo azzardati di chiedere una cosa perché la signora era molto gentile, se ci poteva dare un ventilatore. Quando gli abbiamo chiesto, un ventilatore? Cioè, sì, sì, un ventilatore, sai quello che gira, crea dell'aria, non aprendo le finestre. Ma crea corrente? No, appunto, proprio la cosa che volevamo noi, un ventilatore. Ventilatore ci ha messo 3 giorni a portarcelo, quando ce l'ha portato l'ha appoggiato su un tavolo, uno di quegli oggetti talmente vecchi che se lo guardavi intensamente incominciava a cigolare, no? Non so se avete presente quando il Po è in secca, che vengono fuori i carri armati tedeschi, roba del genere, sembrava uno di quegli oggetti lì, no? Niente, alla fine ce l'ha dato, ce l'ha lasciato lì, e mi sentivo un po' in colpa, però gliel'ho dovuto chiedere, e va, vi manca qualcos'altro? Signora, se gentilmente ci lascia il carbone, così lo facciamo funzionare, perché non avevo una spina, lei ce l'ha lasciato, ha detto ho trovato il ventilatore e ce l'ha lasciato lì. Io personalmente quando ero piccolo andavo al mare nelle Marche, perché sono nato e cresciuto nelle Marche, bellissime spiagge, soprattutto Riviera del Conero, se vi interessa andate a vederlo. L'unica cosa è che i marchigiani forse sono migliorati un pochino ultimamente, però con l'ospitalità forse non le persone migliori di sempre. Mia madre invece, lei milanese, un po' imborghesita, così una volta al mare c'era questo bambino che giocava, faceva castelli di sabbia, continuava a tirare la sabbia addosso. Mia madre si incazzò dopo un po' perché continuava a ricevere sabbia in faccia, andò dal padre che era il proprietario dello stabilimento e gli chiese, mi scusi, non è che potrebbe dire a sua figlia di smettere di giocare con la sabbia che mi sta leggermente molestando? E il signore l'ha guardata e ha detto, signora, e questa è una cosa tipica delle Marche, voi vi illudete che vi daranno del lei, vi chiamano signora e signore, ma poi parte il tu cattivo e la risposta è stata, con me presente, signora, se non ti piace il mare puoi andare in montagna. E quella lì è stata l'ultima volta che mia madre è andata in una spiaggia nelle Marche. Comunque se doveste rimanere, e poi vi saluto, a Milano ad agosto, vi consiglio un'attività che a me piace tantissimo fare, È un po' un disastro rimanere a Milano ad agosto, vi consiglio di andare in Piazza del Duomo, pomeriggio alle 3, cercate un bar all'ombra, vi prendete un bicchiere di acqua con ghiaccio e vi mettete lì, fino a quando non li vedrete. Due stronzetti biondi, una coppia nord europea, che ha avuto la brillante idea di comprare quel volo a 5,50 euro su Ryanair, no? Figa, hai visto? Oh, 5,50 euro Milano, settimanella romantica, neanche weekend, settimanina romantica, pensano di essere più svegli, incominciano ad arrivare i sospetti a Düsseldorf quando salgono in aereo, non c'è un cazzo di nessuno, pilota che li guarda così, benvenuti, parla con la hostess, ma... No, no, bellissimo Milano, stiamo arrivando a Milano, l'aereo appena loro scendono scappa subito, torna a Düsseldorf, e quindi voi li vedrete, sapete, un pochino sfocati, comunque c'è l'afa, no? E ci sono loro che si muovono, stanchissimi, no? Con l'asfalto che gli si attacca alle scarpe, voi siete lì seduti beati, li guardate. Sapete che stanno arrivando? Per farvi la domanda che vi fanno sempre gli stranieri, arrivano, fa un caldo porco, vedono la tua acqua, così alla fine cominciano a gattonare. Arrivano lì e ti fanno, I'm sorry man, what can we do in Milan? E tu ti fai un bel goccione d'acqua. E c'è un cazzo, Hansel e Gretel, vi siete fatti fottere. E loro vi crepano lì davanti. Grazie mille per questa serata. Tommaso Adami, fate un grandissimo applauso, continuate a farlo. Grande. Bella. Apriamo col botto, perché dopo appunto il ruolo infame dell'apertura, che questa volta è toccato come tutte le volte al primo, all'ultimo arrivato, è il turno di Valerio Erò, e mi ha chiesto, anzi non me l'ha chiesto, ma ha proprio detto non farlo, ma io lo faccio lo stesso. Valerio Erò si picca tanto di fare il comico un po' ribelle, un po' controcorrente, ma poi paga l'affitto con il ruolo del Giargiana nel Milanese imbruttito. Venduto! Insultatelo, questo è il momento. Quindi Valerio Erò purtroppo ha delle contraddizioni. E quale momento, quale palco migliore per spiegarvele tutte? Quindi vi faccio, anzi vi chiedo, vi faccio, sembro un idiota, vi chiedo un grandissimo applauso per Valerio il Giargiana Airo Rockelmeier. Andiamo a fare denti! Il vero padrone di casa, signori. Una persona, tra l'altro, affidabilissima, quando gli dici ci accordiamo su come mi devi presentare. Appunto, e te hai svelato il meccanismo all'inizio. L'uomo che fa la satira da anni, l'autore professionista, vergognati. Comunque, posso dire... Allora, Henry, avrei dovuto sposarmi con te e avere te su questo palco a introdurmi, che non dicevi nulla di quello che io ti chiedevo, ma almeno cagavi sul palco. Prossima volta io e te e basta. Comunque, signori, posso dire, signori dell'Exalge, che qua c'è una scelta un po' poco furba di posizioni, perché ci sono tante persone qua in piedi e pochi posti qua. La gente è anche un po' intimorita, qualche posto c'è, però non vengono, perché dicono, vabbè, andiamo lì da questi due che sono minacciosi, andiamo lì vicino a lei che è antipatica, non vengono, capito? Ma capisci, se c'è una sedia lì, dicono, figa, dobbiamo averci a che fare. Un applauso! Non sai neanche il nome, Se esibisci stasera non sai il nome. Io parlo solamente attraverso la forma delle anime e non attraverso questa cosa convenzionale che sono i nomi comuni. Allora, ragazzi... Ma pensa a te. Ma venite dentro, dai, su! Vedete, quando le cose si chiedono con gentilezza. Dai che arriva un altro, dai. No, sta andando bene, giusto così. Vabbè, allora. No, baffone, dai. Ascoltami, per favore. Ti ho fatto i complimenti per il baffo. Ma lo sai che ci vuole la completa attenzione, perché noi siamo puttane, capito? Quindi, Beh, tu sei un po' puttane. Perché lui è un po' sordo. Per dire, lui questo discorso dell'ascolto con un orecchio, intanto ascolto, non lo può fare. Allora, no, dicevamo che fondamentalmente sì. Un applauso! Guarda, ti sorprenderò e lo saprò il suo nome. Dicevamo, no, fondamentalmente che ma noi abbiamo davvero bisogno di fare sta serata, cioè dobbiamo, signori, ma voi mi dite per curiosità, cioè nel senso, io quando siete venuti la prima volta, forse, forse avevo già chiesto che mi sbronzo, ah ok, no, perché io finisco, non lo sapete ancora, non lo sapevate allora? E cosa avevano detto? Ma non hanno detto una motivazione. Ma perché non la sappiamo? Autolesionismo, sindrome di Stoccolma. Magari c'è un giro di droga qua vicino. Heisenberg, sei tu. La metanfetamina arriva sempre dalle persone che meno ti aspetti. Un applauso! Divertiamoci, vogliamoci bene, vogliamoci bene. Allora, te mi ricordi tantissimo la Monna Lisa ma con i capelli bianchi. Guardatela, può farmi il sorriso della Monna Lisa? È lei! Vabbè, dicevamo. C'avevamo qualcosa da dire? Vabbè, ma ho capito, ma uno cerca un appoggio, cioè... Beh, l'unica che mi sembra disponibile a dare un appoggio a lei. Signorina, vede che la chiamo signorina? Sì, ma 45 anni ce li hai tutti, anche vista da vicino, te lo dico io. No. Non è più giovane di lei, eh? Io? È sua figlia? Pensavo fosse sorella. Allora, dicevamo che lui ci mena a fine serata, fa Dio te lo dico. Il baffo è incazzato come una bestia. Allora, no. Avevamo un punto verso cui andare, ma perché seguirlo? Ma un applauso a chi ci fa l'onore di venire qui, Ciccio Rigoli! Che dopo ci delizierà con mezz'ora del suo spettacolo in anteprima speciale, solo qui, solo all'Exalge. È un'anteprima pre-Netflix. Lui annuncerà sul palco questa cosa, ha preso il suo spettacolo Netflix, lo proverà qui, e voleva registrarlo anche qui, Netflix gli ha detto, beh, è un po' una merda l'Exalge, e quindi non l'hanno registrato qui. Hanno detto andiamo al Santeria, che comunque c'è, fa schifo uguale ma è più grande. Allora, no, sì, c'è questa cosa fondamentalmente, andiamo a dire qualcosa davvero. C'è questa cosa che faccio, questo personaggio, che fra l'altro scritto da lui, cioè quindi il male deriva da lui, che è il Giardiano è milanese imbruttito, ma tutto il mondo è milanese imbruttito, deriva da lui questa merda qui, e... Fondamentalmente vi dico, io sono anche contento perché comunque cioè, con il milanese imbruttito, con questo personaggio, cioè, ci vado a mignotte, quindi sono abbastanza soddisfatto, però sto iniziando a cercare un modo per uscirne dal personaggio, perché va bene tutto, però non voglio mica fare la fine di Alvaro Vitali che a 80 anni si mette a far Pierino, no? Anche se capisco bene il debito e riconoscenza di Alvaro Vitali nel confronto del personaggio che gli ha fatto toccare il culo a Edwidge Fenech. Io tuttora toccherei il culo a Edwidge Fenech, ho una passione per le vecchie, per questo in realtà che io ti molesto. E fondamentalmente adesso voglio uscire dal personaggio, e mi sono studiato un paio di piani, li ho messi all'atto, ma insomma... qualcosa è andato storto. Primo piano mi è venuto in mente, no? Perché mi sono detto, devo fare qualcosa di scioccante, qualcosa, no? Che cambi l'idea che le persone hanno di me, no? Devo fare qualcosa che la gente dica, oh, la Madonna. Cioè, devo fare un po' come Miley Cyrus, che è riuscita a distaccarsi dal personaggio di Anna Montana, personaggio disneyano, iniziando un po' a fare la mignotta. Quindi, devo fare più o meno la stessa cosa. Ho detto, cosa posso fare? Giorgia pedofilo, piano 1. Mi sono appostato alle scuole elementari con il completo ufficiale da pedofilo, cioè l'impermeabile lungo. Sono andato all'uscita, ho beccato il bambino più cicciottello che ho visto e gli sono andato così. E ho fatto sì che mi vedesse una mamma mentre io stavo per aprire il giaccone, e la mamma, come mi ha visto, mi ha urlato: guarda che bello il Giorgiana che fa gioco bimbi. Io faccio: no, no, cioè, io glielo inculo il bambino, non ha capito, non ha... Ah, che cosa che dice il Giorgiana, ha proprio ragione il signor imbruttito a sgridarlo. Niente da fare, il Giorgia pedofilo non è stato preso sul serio. Anche io ho detto: vabbè, piano 2, il Giorgia nazzi. Mi sono messo sui social, su Facebook, ho iniziato prima a condividere post di Diego Fusaro, poi mi sono iscritto a gruppi di Casa Pound, sono passato a Instagram, ho fatto una bellissima storia in cui ho fatto la foto al libro Mein Kampf con scritto nella storia momento cultura. Oh, la cosa che è successa è che hanno iniziato ad aumentarmi i follower. Sono arrivati dei messaggi un po' strani, mi fanno: ah, che bello, finalmente una persona le cui idee mi rispecchiano. Che bello, grande Giorgia, ti vogliamo alle elezioni con il piano delle 3F. Quali sono le 3F? Figa, fatturato e figa che merda gli ebrei. Mi stavano prendendo un po' troppo sul serio. Quindi ho cambiato nuovamente piano e sono passato a quello che mi sembrava quello più giusto, anche perché ho detto: questo mio uscire al personaggio deve portarmi anche dei vantaggi, non solo scioccare. E l'ultimo piano è stato il Giorgia LGBT. Ho dichiarato la mia omosessualità a tutti. Ho detto che faccio stand-up comedy perché mi piace l'idea di avere un cazzo in mano. Ho dichiarato di non rivedermi nel mio genere sessuale, anche perché porto una terza abbondante di seno, cosa che molte donne mi invidiano. E la cosa stava andando bene all'inizio. Cioè, i maggiori teatri nazionali mi hanno offerto ruoli da protagonista. Netflix mi ha offerto una serie TV. Real Time mi ha detto: facciamo reality Valerio e la sua vita da persona fluida. Ho rovinato tutto quando è venuto a intervistarmi gay.it, che mi ha chiesto: come usi te i pronomi gender? E lì ho fatto scena muta, io avevo portato un argomento a piacere, ma non me l'hanno chiesto. Alla fine, però, penso che il mio piano finale è proprio questo: fare questo monologo davanti a voi, anche perché io ho una clausola sul contratto che dice che io non posso in alcun modo far fare brutta figura al brand del milanese imbruttito e al personaggio che interpreto, il Giorgiana. Pena soldi da pagare tanti, 10 volte tanti quelli che io guadagno in un anno. Quindi, signore e signori, ecco a voi il piano Giorgia Barbone. Grazie! Henry! E adesso preparatevi al male in persona, a Satana, a colui che di facciata si vende con il nome del collettivo Il Terzo Segreto di Satira e fa video a cui tutti voi credete, che vedete e dite: ah, però sta dicendo proprio quello che pensavo io, persona di sinistra media che in realtà pensa poco. E poi guadagna i soldi grazie ai video che scrive e dirige del milanese imbruttito, quella merda umana di Andrea Fadenti. Posso dire che è stata la presentazione più bella che tu mi hai fatto in tutta la tua vita, anzi in tutta la nostra vita assieme. Vabbè, C'ho un po' di robe da dire, iniziamo. Niente per io, non c'è nessun motivo. Vabbè, io vivo a Milano da 15 anni, ma in realtà sono di Mantova. Piccolo sondaggio, chi conosce Mantova? Tutti, bene o male. Chi è mai stato a Mantova recentemente? Ok, chiedo uno a caso al primo che risponde. Se dico Mantova, la prima cosa che vi viene in mente? Gonzaga! Grandissimo! Sai che ce l'avevo da dire, ma si vede che tu hai una cultura incredibile. Ma aspettavo tortelli di zucca. Invece è arrivato Gonzaga, grandissimo Enrichetto, ha detto Harry. Comunque Gonzaga, tortelli di zucca, Virgilio. Pardon? No, quello è Cremona. Vabbè, siamo vicini. Virgilio, i Gonzaga, Festival Letteratura a settembre, tutte cose bellissime che... Palazzo Te, sì, vabbè, adesso tutti esperti, dovevano essere tre. Non è il punto centrale del pezzo questo, non dovevamo dilungarci 20 minuti sulle curiosità di Mantova. O comunque... pardon? Il sacco di Mantova. Tu stai andando addirittura in epoca storica. Esattamente, Palazzo Te, Palazzo Ducale, la Camera degli Sposi, tutte cose bellissime che rappresentano la città. Ma secondo me, da mantovano, c'è una cosa che rappresenta la città al meglio, una cosa che però è conosciuta dai mantovani e completamente sconosciuta al resto d'Italia. Ed è un peccato, perché è il vero fiore all'occhiello della città. I maiali. Vi spiego perché. In tutta la provincia di Mantova ci sono 400.000 abitanti. In tutta la provincia di Mantova ci sono 1.200.000 maiali. Fanno 3 maiali a mantovano. Quasi come le 4 mogli degli emiri. Siamo a tanto così dal poliamore. Pensate che c'è questo paese, Schivenoglia, nella bassa mantovana, al confine con l'Emilia, che nel 2017 aveva un rapporto di 8 maiali ad abitante. Ora, Schivenoglia nel 2017 aveva 2.000 abitanti. Fate voi i conti, fanno 16.000 maiali. Pensate alla puzza di merda, Schivenoglia. Pensate di notte l'odore che si sente quando passate, tipo Lodi ma ancora peggio. Che già è un bella merda. Comunque, il vero problema di Mantova non è tanto, come dire, la puzza di merda e i maiali. Il vero problema di Mantova è che Mantova è isolata da tutto e tutti. Mantova è lontanissimo da tutto. Se noi prendiamo come punto di riferimento della Lombardia Milano, Mantova è dalla parte opposta. E il problema è che manca un collegamento diretto. Manca proprio l'autostrada che colleghi direttamente Mantova a Milano. Questa non è un'opinione personale, sono dati studiati, basati appunto su esperienze di vita. Vi faccio un esempio. Milano-Bergamo, un'ora. Milano-Varese, un'ora. Milano-Como, un'ora. Milano-Brescia, un'ora e venti. Milano-Cremona, un'ora e venti. Milano-Sondrio, 2 ore. Milano-Mantova, 2 ore e mezza. Ci si mette di meno andare a Sondrio, che per carità è più vicino, ma comunque rimane montagna. Quindi comunque la strada dovrebbe essere un pochino più tortuosa. Ad ogni modo, tornavo a Schivenoglia, il paese di cui vi dicevo prima, negli anni il numero di maiali è andato peggiorando, cioè è andato aumentando talmente tanto che alle elezioni comunali del 2020 il candidato sindaco di Fratelli d'Italia era Ettore, un maiale di 150 kg, razza duro, con una razza americana, dal manto rosso, molto resistente, molto rustica, adatta agli insaccati e alla lotta politica. Ebbene, durante il primo turno, Ettore, il candidato di Fratelli d'Italia, ha stracciato il sindaco in carica, un pediatra di 50 anni di centrosinistra, con un programma molto semplice, basato su un unico punto, l'autostrada per Milano. Poi il programma non si è fatto perché i maiali tendono a non portare a termine le cose. Ora cambio argomento e vi racconto una cosa che mi è successa 15 giorni fa, che è il vero fulcro di questo pezzo, questa era solo un'introduzione. 15 giorni fa, ponte del 2 giugno, ero in Liguria a casa della mia ragazza, ovvero dove la mia ragazza ha una seconda casa di famiglia, Spotorno, zona finale Ligure. Essendo il ponte del 2 giugno, quella mini vacanza era stata preparata da tempo. Era stato preparato anche da tempo il fatto che io dovessi prenotare questo ristorante sulla spiaggia, molto ambito, dove è praticamente impossibile trovare posto se non prenoti con almeno 2-3 settimane d'anticipo. Lei ci teneva tantissimo, e visto che ci teneva, mi aveva detto addirittura a Milano, un mese prima, di prenotare il ristorante. Mentre lei me lo diceva, io mi stavo fumando una canna, ho detto sì, ma in realtà stavo pensando, cazzo, quanta ganja che ho messo. È passato un mese, siamo arrivati al ponte del 2 giugno e entrambi ci siamo resi conto, lei che non aveva il tavolo, io che c'era un pranzo, perché non è che mi ero dimenticato di prenotare il tavolo, mi ero proprio dimenticato del pranzo in sé. Si incazza, mi dà del coglione, mi dice sei un idiota, sei un pezzo di merda, ti dimentichi tutto, ti interessa solo fumarti mille canne. Ha ragione, la faccio andare avanti mezz'ora, si sfoga. Ad un certo punto decido di prendere in mano la situazione. Ci presentiamo lo stesso al ristorante, anche se davvero era impossibile trovare un tavolo senza prenotare. Arriviamo, ci va di culo perché una coppia ha appena chiamato per disdire il tavolo. Ci sediamo, il posto è meraviglioso. Cooperativa ittica sulla spiaggia molto rustica, davvero a 20 metri dal mare, dove il pesce è freschissimo, pesce buonissimo, il gestore che ti tratta di merda, la Liguria. Tutto davvero perfetto. Lei però è ancora un pochino incazzata e quando arriva l'antipasto, che sono delle deliziose alici in carpione, mi dà ancora del coglione. Dell'idiota, dello stronzo, pezzo di merda, dimentichi tutto, come fai a non ricordarti le cose, fumi solo mille canne, ha ragione. Arriva poi il fritto e lì l'ascia di guerra è stata disotterrata. Si calma, mangiamo il fritto, beviamo un bicchiere di vino, guardiamo il mare e ad un certo punto, dal nulla, dalle casse della radio, parte Notte Magiche. Notti magiche, scusate. Edoardo Bennato, Gianna Nannini, inno dei mondiali di calcio Italia 90. E non lo so, sarà stato il mare, sarà stata la compagnia della mia dolce metà, sarà stato un bicchiere di vino, ma al momento del ritornello, notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, mi sono messo a piangere. Ve lo giuro, sono scoppiato a piangere come un bambino, mi scendevano le lacrime. La mia ragazza mi guarda basita e non capisce bene cosa sta succedendo, pensa che mi stia sentendo male, un lutto improvviso, un messaggio. Mi guarda e mi fa, amore, come va? Tutto bene, stai bene? Io guardando ancora l'orizzonte dico, sì sì, tutto bene. Mi è solo venuto in mente il gol di Schillaci contro l'Austria. Lei è ancora basita, non sa bene cosa dire, ma in quel momento fa l'errore che non doveva fare e mi dice, perché? Cos'è successo? Raccontami tutto. Non fa in tempo a finire la frase che vado in radiocronaca. 9 giugno 1990, Stadio Olimpico di Roma, Italia. Si gioca la partita Italia... Scusate, stavo per morire. Si gioca la partita Italia-Austria. È l'Italia di Azeglio Vicini, del CT Azeglio Vicini, l'Italia di Baggio, di Bergomi, di Baresi, di Maldini, di Donadoni, se non sbaglio, di Ancelotti. Ed è un'Italia che, nonostante il bel gioco, sta facendo fatica ad imporsi contro l'Austria, perché l'Austria è fatta da giocatori di 2 metri, sono degli armadi a 4 ante di 2 metri. C'è stato un palo di Ancelotti, ma siamo sullo 0-0. Va male, butta davvero male. Al 74esimo, il CT dell'Italia, Azeglio Vicini, è preso dallo sconforto, è in preda al panico, non sa più che cazzo fare e decide di giocare il tutto per tutto, gioca all'in. Si gira verso la panchina e guarda un ragazzo di 25 anni, una riserva, e gli dice, ragazzo, entri tu. Il ragazzo in questione è incredulo, ha gli occhi fuori dalle orbite, guarda il mister e gli dice, ma mister, dici a me. Il ragazzo in questione reagisce così perché è vero che nell'ultimo anno ha segnato 23 gol alla Juventus, pur essendo una riserva, ma fino a 12 mesi prima giocava in Serie B col Messina. Sto ragazzo ha paura di fare brutta figura, paura di non segnare e fare una brutta figura, fare una figura di merda, non se la sente, è agitato. Ma tant'è che al 74esimo entra in campo. 5 minuti dopo, al 79esimo, Gianluca Vialli è sulla fascia destra e butta un delizioso cross verso il centro dell'area, dove c'è proprio lui, sto cazzo di ragazzo, Salvatore Schillaci, detto Totò, 1 dicembre 1964, Palermo, 1,75 m d'altezza per 70 kg di terza media, che quando arriva al cross salta più in alto di tutti, salta più in alto dei due difensori austriaci di 2 metri, colpisce il pallone e lo butta in rete, 1-0, l'Italia è in vantaggio. Schillaci è incredulo, ha gli occhi fuori dalle orbite, ancor più di quando 4 minuti prima Azeglio Vicini gli aveva detto di entrare in campo. Prendo fiato, finisco il mio racconto, bevo un bicchiere di vino e guardo l'orizzonte. La mia ragazza, che fino a quel momento pendeva dalle mie labbra, mi guarda e mi fa, ma scusa amore, ma tu nel 90 quanti anni avevi? E io, 7, per la precisione 6,5. E lei, e ricordi tutta la partita? E io, ogni singolo minuto. E lei, e come cazzo hai fatto a dimenticarti di prenotare il ristorante? Signore e signori, guardo la scaletta, chiamo su l'amico Valerio Erò, perché non so chi tocca, grazie. Grazie mille. Chi c'è in scaletta adesso? Ah, bellissimo. O chiamiamo l'amico, chiamiamo la prima donna della serata. quota rosa, quota. Sì, ci tocca. Però abbiamo fatto un bel numero, abbiamo impacchettato, abbiamo ben due donne, che è una cosa che vi assicuro non succederà mai più. Come schiave sessuali. Esatto, perché c'è di mezzo quella bellissima persona, quindi fra queste due donne vedrete Enrico Veronica, che fa abbastanza schifo, quindi alterneremo. No, vabbè, tu per la grazia allo schifo. Tu non puoi dire di tutti che fanno schifo, però capisci che per me. Ma ascolta, ma io mi sono impegnato per fare una serata che fa schifo. Ma perché urli? Ma, che bella. Ma chi ti ha detto niente? Perché stai urlando? Cos'è sto mercato? Dai. Ma mi devi dire che la serata è bella. Ma chi te lo deve dire? Questa serata fa schifo. Hai ragione. Oh, e vaffa. Vorresti bestemmiare così? No, aspetta, lo chiedo. Allora, io un porco Dio lo tiro sempre a prescindere. Ma era per capire l'andazzo. Che caldo, ragazzi. Enrico Veronica, è vero o no che te sei fiero di fare schifo? Io faccio schifo con una certa fierezza, sì, però non si dica che non ho dignità. Non si dica che non hai? Dignità. Questo è il mio uomo. Questo è il mio uomo. Ha la dignità che non hai tu, guarda. Guarda, io l'ho tu è proprio lei, quando hai tagliato i capelli, via tutta. Dai, chi chiamiamo? Ma quale delle due? No, avevamo fatto un patto. E non mi ricordo. No, non è vero, non c'è nessun patto. Quella che hai molestato magari la mettiamo dopo. Ah, ok, allora chiamiamo l'altra. Che non ha ancora molestato. Pare di no. Pare di no. Silvia, non molestata da Valerio, Conti! Buonasera a tutti e grazie per la possibilità di partecipare a questa serata Diversity and Inclusion, in cui anche persone che devono togliersi gli occhiali per leggere possono partecipare, e soprattutto una serata in cui anche donne possono partecipare. Quando io, donna, salgo su un palco dove so che le donne saranno poche, vengo proprio presa dall'ansia, perché è un po' come se fossi in dovere di portare avanti delle istanze femministe, quindi di partire coi pipponi, l'autocritica, che cosa noi sbagliamo, perché non riusciamo a prendere quello che ci meritiamo, quando poi la risposta è semplicissima. Qual è il problema? I maschi etero. Ora, anche io ho le mie colpe, perché comunque si finisce sempre nell'autocritica, io ho le mie colpe e un maschio etero me lo sono messa in casa. Perché non so se avete presente, tipo, quando andate a casa di una vostra amica e ci sono dei biscotti nuovi che non avete mai assaggiato, li assaggiate e pensate: questi biscotti sono buonissimi, io li adoro, io per tutta la vita non voglio mangiare altro che questi biscotti. E allora andate al supermercato, avete la fortuna di trovarli in offerta, riempite il carrello, a casa riempite la credenza di quei biscotti e iniziate a mangiarli a ogni pasto, colazione, pranzo e cena. Quei biscotti al terzo giorno li odiate, vi fanno schifo, ma ormai avete la casa piena. Ecco, a me piaceva il cazzo e me lo sono messa in casa. Comunque, già che ho l'esemplare di maschio etero in casa, io cerco di usarlo per quanto possibile per fini statistici e per fini scientifici. Quindi io a volte gli pongo delle domande per capire bene quali siano le sue prospettive sul mondo e soprattutto sulle donne che in teoria gli interessano. Di recente gli ho fatto una domanda molto accurata e gli ho chiesto: secondo te, durante le mestruazioni, le donne quanti assorbenti usano? Non so se qualche etero in sala voglia tentare la risposta. Ecco, il mio maschio etero di riferimento ha risposto 4. Io gli ho detto: guarda, i giorni del ciclo in media sono 5, e lui mi ha risposto: allora 5. Ovviamente. E lì mi sono accorta che se per un maschio etero è così difficile capire qualcosa che comunque vede fisicamente accumularsi nel suo cestino della spazzatura in casa sua, qualcosa di concreto come le mestruazioni, mi sono chiesta quanto deve essere difficile per un maschio etero capire qualcosa di più astratto come la sindrome premestruale. La sindrome premestruale, o con l'acronimo inglese PMS, si manifesta nei giorni precedenti al ciclo in quasi tutte le donne, con dei sintomi molto diversi che possono essere sia fisici come i dolori al seno, che emotivi come degli eccessi angosciosi, la perdita della razionalità o ancora l'alterazione della percezione del sé, oltre che l'acutizzarsi di un problema serio e quotidiano come il non avere niente da mettersi. I medici hanno identificato la causa della PMS nello sbalzo ormonale, l'oscillazione tra estrogeno e progesterone e ovviamente nell'effettiva assenza di qualcosa di carino da mettersi all'interno del proprio guardaroba. La PMS ha serie ripercussioni sulla vita delle donne che ne soffrono, perché per una donna in condizioni normali un cagnolino in strada è solo un cagnolino in strada, ma per una donna in PMS un cagnolino in strada diventa subito un piccolo tesoro tenerissimo che, le giuro signora, io non ho mai visto niente di più tenero. Signora, io credo di amarlo. Signora, io vorrei stare con il suo cagnolino per tutta la vita. Signora, lo lasci a me. Signora, non sto scherzando, mi dia il cane o la strozzo col guinzaglio e copro il suo corpo coi sacchettini dell'umido. In altri casi, sempre di PMS, in casi più gravi di PMS, un cagnolino in strada diventa anche un piccolo tesoro. Signora, il suo cane è bellissimo, ma non le sembra che abbia un occhietto un po' meno vivace dell'altro? Dice che si è appena svegliato, è normale? No, signora, io non sono un medico, ma questo cane sta morendo e io voglio salvarlo. Mi reciderò la aorta con la lima per unghie che ho in borsa e gli donerò le mie corna. Presto, chiami un'ambulanza prima che le mie corna vadano sprecate. Ecco. È faticoso spiegare che cos'è la PMS, perché se ci pensiamo, spiegare a un maschio etero che cosa sono le mestruazioni sarebbe tutto sommato semplice, sarebbe sufficiente accoltellarlo in un organo non vitale e lasciarlo sanguinare in un sottoscala umido per circa 5 giorni. Per spiegargli la PMS dovremmo adottare una soluzione molto più strutturata ed è per questo che stasera sono qui con gioia per presentarvi un nuovo rito simile al servizio militare che permetterà ai giovani di tutto il paese di sentirsi pronti per una serena e consapevole convivenza con l'altra metà del cielo, quella che sanguina per 5 giorni al mese e che nei precedenti 10 si comporta da pazza con i cagnolini tenerissimi. Il nuovo rito per i maschi della nostra nazione durerà appunto una decina di giorni, durante i quali ai nostri uomini sarà indotta la PMS. Si svolgerà in hotel attrezzati adeguatamente, i giovani entreranno, il personale distribuirà loro un unguento totalmente omeopatico che proviene dall'altopiano andino e che conferirà sui volti dei giovani un immediato e orrendo florilegio di brufoli. Lo stesso unguento spalmato sui capelli conferirà loro il fascino oleoso che ha reso noti per la loro sensualità i popoli delle Ande. Lo staff consegnerà poi ai partecipanti dei vestiti quasi identici a quelli che indossavano all'ingresso, ma che stanno loro di merda, in modo tale che capiscano cosa si prova a non avere niente di carino da mettersi quando già coperti di brufoli non è che ci si senta un fiore. Nel corso del training i maschi parteciperanno anche ad una serie di incontri quotidiani che potete immaginare un po' come quelli degli alcolisti anonimi. Quello che i partecipanti non sanno è che in ognuno di questi incontri ci sarà un solo vero partecipante al training. Gli altri faranno parte di uno staff specializzato ottenuto formando adeguatamente dei laureati in scienze dello spettacolo che altrimenti non avrebbero di che vivere. Durante questi incontri lo staff minerà l'emotività dei partecipanti al training fino a portarli alle lacrime, prima sottoponendoli alla visione di un documentario di 12 ore dal titolo Cose bruttissime che possono accadere ai cagnolini tenerissimi e poi portandoli alle lacrime con una serie di commenti fintamente amichevoli sul loro aspetto fisico come "non è vero che sei stempiato, pelato di merda". Usciti emotivamente devastati dalla stanza degli incontri, i partecipanti al training saranno condotti attraverso corridoi con le pareti tappezzate di specchi deformanti dai quali ogni suggestione ricevuta sul loro aspetto fisico sarà confermata, ma non temete perché gli specchi, come tutti gli arredi dell'hotel, sono infrangibili per evitare i gesti di autolesionismo di quanti si rendessero effettivamente conto di non essere stempiati, come diceva loro la mamma, ma dei pelati di merda. Il mio pezzo è finito, però non so se chiedervi un applauso, perché? perché per una donna in condizioni normali un applauso è solo un applauso, ma per una donna in PMS un applauso può essere anche un'azione che scegliete di fare per esprimere fisicamente il sollievo che il mio pezzo sia finito. E allora io vi odierei, perché secondo me era un pezzo molto bello e profondo che attinge alla contemporaneità e al post femminismo, di cui io mi sento una voce molto autorevole, sebbene un pochino nasale. Infatti facevo bene a sospettare, perché per una donna in PMS un applauso potrebbe anche essere l'espressione di un complotto, cioè un gesto che avete concordato tra di voi passandovi un bigliettino di mano in mano, che tanto io mi ero tolta gli occhiali all'inizio, che cazzo vedo, al fine di farmi credere di aver parlato per 10 minuti di PMS, cosa che io effettivamente credo di aver fatto, ma in realtà sono affetta da una grave forma di Tourette e da 10 minuti sto solo ripetendo cazzo, troia, crepa, merda, come se lavorassi in un ufficio postale. E poi, per una donna in PMS... un applauso può essere anche un gesto per esprimere pietà, non tanto per la bruttezza del mio monologo o per la sua interpretazione, su cui avreste anche ragione, ma per come sono vestita stasera. E io potrei tirare in ballo la lavatrice rotta, la piccola colluttazione che ho avuto stamattina con una signora che aveva un cagnolino tanto bello, ma la verità è che io effettivamente stamattina non avevo davvero un cazzo da mettermi. Quindi, col vostro permesso, andrei a piangere in bagno e, se ne ho l'opportunità, ad accoltellare un maschio etero. Grazie. Silvia Conti! Chi c'è? Chi c'è adesso? Chi adesso, c'è? Adesso il maestro. Il maestro, un maestro. Veterano. Una persona che posso dire è la mia ispirazione nella vita. Io artistica, ogni azione che faccio... La copi. No, la devi a lui. Pensando a cosa farebbe. Enrichetto. Veronica. Quindi Enrichetto, tutto Enrichetto. Quello che io faccio è colpa sua. Fate un grosso applauso a Enrico. Veronica, vieni. Vai, prendine due, occhio che ti stai. Prendine due, bella come io. Vai. Così? Tipo no, sangue dei subsoni. Ma tipo King Kong Jung anche. Cosa? Sa. Questa roba dei due microfoni mi ha messo molto in difficoltà. Ciao, buonasera. Oh, è bello che è 2 ore che faccio... arriva... Ciao, buonasera. Buonasera, sono Henry Veronica. Inizio 1. Buonasera, sono Henry Veronica. Questo è il massimo di yodel che riesco a fare. Lo yodel... il famoso vocalizzo per i canti alpini, alpestri, cioè che si fa nelle Alpi, siccome anche negli Appennini, comunque c'è lo yodel appenninico. Cioè, pensate se nelle ultime polemiche, cioè a Parma, quando c'è stato il raduno degli alpini, cioè se il catcalling, cioè o le molestie sessuali, verbali, gli alpini le avessero fatte con lo yodel o con un canto alpino. Fammi toccare il culo bionda, che là sul piave devo andar. Fammi vedere mezza zinna. Beh, ci sarebbero state molte meno polemiche. Che l'Italia è così, basta un coro alpino. Cioè, gli sciogli il cuore, no? La prima guerra mondiale, l'Italia è così, Cioè, vi ricordo... massimo di yodel che riesco a fare. Perché ve lo dico adesso? A inizio performance. Perché secondo me tra un po' qualcuno, cioè quando ho iniziato la performance, potrebbe dire, beh, questo come comico fa cagare. E io l'accetto sta cosa. Però potrebbe pensare, però magari è bravo a farlo yodel. Massimo. Così non vi creo aspettative neanche nello yodel. Ora, Abbiamo parlato del catcalling prima. Il catcalling in realtà ha, secondo me, come principio dei difetti. Cioè, il primo, che in italiano è intraducibile. Cioè, in italiano il catcalling si traduce più o meno... E si è girato il cane, tra l'altro. Già vi fa capire la grande... No, cioè, il grande dramma, si è girato il cane, cioè, vedi. Ma è difficilissimo da scrivere, tra l'altro, difficilissimo. E poi, ragazzi, qua si parla di statistica e noi crediamo molto nella scienza. Cioè, se tu chiami un gatto per strada, è stato proprio calcolato. Quanti siamo stasera? Saremo 20, 25, 30? Contando anche loro? Cioè, è stato calcolato che 30 persone che chiamano un gatto per strada, cioè, compreso me, perché io vi dico già lo faccio, solo 3-4 al massimo poi ci fanno sesso, eh? E quindi sì, dal punto di vista della statistica è mendace. Dovremmo cercare un altro termine. Che io faccio sesso con i gatti, ve l'ho già detto. No, è così, anche questa cosa ce l'abbiamo levato, perché per me, quando sono sul palco, perché giusto, dopo, è anche come un colloquio di lavoro, cioè dici, io faccio sesso con i gatti, punto, e questa l'abbiamo detta. E possiamo andare avanti, no? Lo yodel, ve l'ho detto, cioè, massimo. Ecco, punto, a capo, andiamo avanti. Ora, inizio 2. Buonasera, sono Henry Veronica. Questa la interpreto molto, occhio. E sono un anarchico, sono un ribelle. Io non ho né Dio, né famiglia, né patria. Poi, prima di venire qua, non scherzo, mi ha telefonato mia madre. Ha iniziato la telefonata così: ma ringrazia il Signore che tuo padre, un ex impiegato statale, c'ha la pensione assicurata. Cioè, mi ha affossato tutti gli ideali, con una frase. 7 fottuti secondi, cioè, ma non bisogna disperarsi, bisogna andare avanti, bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Ora, rimanendo invece in tema, non so come riesco a cucire tutti questi fili, perché generalmente non lo faccio, comunque, rimanendo in tema comunicazioni telefoniche, cioè per farvi capire come sono fuori dal mondo io, perché molti diranno, questo in realtà è un bravissimo attore, l'avete pensato? E allora non fa capire di essere davvero uno fuori dal mondo, lo sono, ragazzi. Cioè, pensate che io 3 giorni fa, 1, 2, 3, fate, cos'è oggi? Lunedì? 3 giorni fa? Cioè, che non so che giorno sia, però. Allora, cioè, ho scoperto che WhatsApp ha velocizzato di una volta e mezza i messaggi vocali. Cioè, da 2 anni, 3. Io l'ho scoperto 3 giorni fa, perché in realtà la mia famiglia, i miei amici, tutti i miei contatti sono cocainomani. Quindi in realtà negli ultimi 2 anni non solo non mi sono accorto che erano velocizzati i messaggi, ma per esempio quando mi mandava un vocale mio fratello, dice, ma com'è rilassato mio fratello ultimamente? Sarà stanco? Sì, cioè, siamo arrivati a questo. Questo era l'inizio 2. Questo era l'inizio 2. Poi quella dell'anarchico, quella ve l'ho detta. Sapete perché ho iniziato così? Ho iniziato mettendo all'inizio alcune tra le mie più belle battute. Cioè, raga, queste erano le mie più belle battute. Cioè, pensate cosa sono le mie più brutte battute. Ma in realtà le mie più brutte battute, qualcuno lo sa, i miei biografi, cioè, le usano già da anni a Guantanamo e nelle carceri cinesi per torturare i prigionieri politici. Infatti, nelle carceri cinesi, pensate che una delle frasi più urlate è: no, basta battute del Veronica, lì mettetemi i molsetti e i testicoli. Questa è una cosa storicizzata. C'è anche sulla mia pagina Wikipedia controversie carceri cinesi, dovete andare. Allora, vi ho detto le più belle battute all'inizio, naturalmente nel disinteresse generale, perché volevo indorarvi la pillola, perché voglio parlarvi di cose molto serie in realtà adesso, non che io non parli di cose serie generalmente. Allora, in Italia, cioè tutto là fuori, qua, Italia, Abbiamo una conoscenza collettiva, una visione collettiva, e quindi appartiene a tutti noi. Profondamente distorta e compromessa, ed è grave questo. Per tanti motivi, certo. Principalmente per i mass media. E ci sono tanti esempi. Quello che voglio portare oggi è il più importante. Secondo me è quello che state pensando anche voi. Naturalmente parlo della città di Caracas. Allora, la città di Caracas in Italia è citata ed è proverbiale solo per i bar brutti. Cioè per i peggiori bar... Cioè pensate come ci rimane male uno della Proloco di Caracas. Cioè pensate uno della Proloco di Caracas. Beh, vieni in Italia e ti parli dei bar brutti. E peggiori... Cioè Caracas ci avranno le loro chiesette, i loro musei... No! I bar brutti! Quello della Proloco di Caracas... Trasfigurato. C'è qualcuno nel Proloco di Caracas qua stasera? Se c'è, avete tutto il mio sostegno. Tutto il mio sostegno. Poi, ragazzi, Caracas c'ha 7 milioni di abitanti. Ci sono andato a controllare. Cioè, vedete, 7 milioni di abitanti, ci sta qualche baretto carino, una bocciofila, locale per famiglie. Cioè, magari locali senza neanche tante pretese, però piacevoli, no? Grazie. No, i bar brutti. No, se dobbiamo parlare di Caracas, dei bar brutti, dei peggiori, e basta. Pensate agli italiani a Caracas. Allora, gli italiani a Caracas, in Venezuela, è pieno di italiani. Perché, vabbè, e qua apriamo una parentesi. Perché in realtà noi italiani abbiamo questa cosa che non riusciamo a farci i cazzi nostri da secoli. Cioè, dai tempi di Marco Polo e Cristoforo Colombo, noi dobbiamo andare in giro a cercare nuovi posti del mondo, a allungare i confini del mondo, perché non ci facciamo i cazzi nostri? Perché se noi ci fossimo fatti i cazzi nostri già qualche secolo fa, cioè ora il mondo conosciuto, almeno per quanto riguarda noi adesso, sarebbe probabilmente al nord la Danimarca, ma proprio per esagerare, e a est Pordenone, cioè quindi... Tutta sta boiata della NATO, i missili atomici, Zelensky, ce la saremmo risparmiata. No, perché siamo sempre in giro a farci i cazzi degli altri, compreso Venezuela, ed è pieno di Venezuela gli italiani. Pensate a quegli italiani che sono andati in Venezuela quando erano dei ragazzini. Una vita di privazioni, sì. Una vita di fatica, lavorando 15 ore al giorno, magari riescono a fare il loro localino. Ogni 3-4 anni riescono a tornare in Italia dagli amici, dalla famigliola, e dicono: sai, io ho fatto tanti, tanti sacrifici, una vita di privazioni, però ora te lo posso dire, ho aperto un bar a Caracas, è uno dei migliori bar di Caracas. Non viene preso sul serio. No! Non lo, là, gli fa la battutina, gli fa il migliore bar, gli fa la battutina, gli fa, il migliore bar di Caracas, la battutina gli fanno. Cioè una vita di sacrifici buttata nel cesso, la battutina gli fanno. Dei migliori bar, gliela fanno, perché gliela fanno la battutina. È vero? È vero? E Venezuela è una società pericolosa. Ci sono i narcotrafficanti. Sì, è vero, tu rischi andando a un bar a Caracas di essere ucciso, rapito. Però, ragazzi, è Caracas. Cioè, rischi di essere ucciso anche in un ambulatorio medico di un urologo. Però anche lì, sai, il marketing vuole la sua parte. Solo nei peggiori laboratori di urologia di Caracas non è uno slogan affascinante. Vende poco. Lo capisco. Lo capisco. Però arriviamo a un momento importante della serata. Sì, è vero? Se vai a Caracas rischi la vita, se vai al bar, se vai dall'urologo, però parliamoci chiaro, cioè anche se vai in un bar a Buccinasco o a Bagnara Calabra, dai, proiettili sui denti, dai, cioè, dai, può capitare, no? Cioè che solo nei peggiori bar di Bagnara Calabra non si usa, mai nessuno diceva parliamo dei bar di Bagnara, no, Caracas, cioè, è la Proloco, no, Caracas. E siamo arrivati a un altro punto. Parlavamo di urologia, siamo arrivati a parlare della regione Calabria, che è una bellissima regione. No, prendi la regione perché tra l'altro è stretta e lunga, è bagnata da tre mari, mi sembra addirittura, tre, cazzo. Cioè, pazzesco, in Italia tre mari, però è la Calabria. Allora, parlando di urologia, cioè, sì, rischi la vita se vai a un bar a Caracas, però anche se vai in ospedale a Catanzaro, solo nei peggiori ospedali di Catanzaro, infatti, è uno slogan sinistro. C'è qualcuno che segue il marketing della Regione Calabria per la sanità? No, è una mia clac che generalmente segue, non c'è. Ecco, non usatelo. Andate su cose più criptiche. E ora vado a concludere con una cosa davvero estiva. Vado a concludere, prima di tutto, come ho iniziato, cioè nel disagio generale. Allora, siamo arrivati all'estate, e tra l'altro abbiamo cominciato parlando dell'estate, non che sia l'ultimo pezzo, però abbiamo cominciato col Tommy parlando d'estate, abbiamo proseguito su questo solco che è anche giusto, ci sono 150 gradi e viene in mente. Allora, l'estate ha le sue cose belle, le donne più libere, gli uomini in Bermuda, possono piacere o non piacere, i film di Little Tony che fa il militare in TV, che anche quello all'inizio può far piacere, poi è un po' come il sesso anale, diventa solo dolore fino a se stesso. Allora, se non si è ben lubrificati. Ora, l'estate ha delle grandi piaghe che puntualmente tornano, e questa è la cosa che è insopportabile. Principalmente sono sempre le solite due. La gente in civile che abbandona i cani, non abbandonate i cani. E poi gli anziani, anche loro abbandonati in casa, da soli. Se ci pensate, le due cose si elidono l'uno con l'altro. Da una parte abbiamo degli animali soli che potrebbero diventare randagi, affamati, bisognosi di cure, di una mano che li nutra, e dall'altra delle persone sole, anche loro, bisognose di compagnia, di sentirsi ancora utili. Avete capito, no? Basta far mangiare gli anziani dai cani. Ora, poi il cane rimane a satollo lì per lì, però poi potrebbe continuare nel suo randagismo. Beh, in quel caso, no problem. In quel caso, coi cani ci facciamo un ragù. Com'è il ragù dei cani? Fatto coi cani? Ma come quello che fate voi. Come quello Star, ma con più cani. Un poeta, un vero poeta. Enrico Veronica! Vabbè, adesso che famo? Arriva il momento clou della serata. Te lo lascio a te perché a far no, tuo. No, vabbè, è mica tuo però. No, però tu l'hai molestata. Quello è vero. Allora, signori, vi posso dire, io lei non la conosco, non so cosa faccia nella vita, l'ho vista una volta, mi è stata sul cazzo, l'ho vista sul secondo. Visto la seconda, ho detto bella figa, però ero da lontano e quindi... Beh, vabbè. L'ho vista una terza stasera. Puoi fare di più. Io adesso sto parlando sinceramente, non è Valerio il comico, è Valerio ma il romano. Vi posso dire che io ho creato questa serata insieme a lui, si chiama Brutte Persone. Cerchiamo di fare cose brutte, sia a livello di qualità, sia a livello umano. Io posso garantire sul suo livello umano, cioè a me sembra veramente uno schifo. Quindi vabbè, ma fate un grosso applauso. Sei un po' eccessivo. Insomma, ti denuncio dopo stasera. Ma sai che io ci ho provato tante volte e non mi hanno mai denunciato. Ma sai che secondo me stasera è la sera buona, quindi facciamo un grandissimo applauso a Elisa Bottiglieri. Ciao a tutti. Allora, non sono mai stata qua, poi appunto sono ben presentata. Bene, voglio insomma così iniziare questa mia frequentazione dell'ex age, che forse poi terminerà qua, chi lo sa, però raccontandovi un po' di me. E quindi inizierò a raccontarvi insomma un po' di un errore ripetuto che faccio nella vita. Allora, uno degli errori che faccio da sempre è quello di sapere che le cose sono in un modo, ma poi di finire per credere che sono in un altro. Sono quella che viene definita una credulona. Io abbocco, appunto, abbocco facile. E, però attenzione, se uno viene da me e mi dice una bugia, io in realtà istintivamente lo sento, proprio lo sento che non è la verità. Però poi per quieto vivere, per educazione, per comodità, finisco per credergli. Sono, per dire, una che diversi anni fa ha acquistato una crema volumizzante seno, cosa che non ha avuto nessun effetto. Vabbè, comunque. Sono una che diversi anni dopo ha acquistato la stessa crema volumizzante seno, convinta che un pochino, in fondo, avesse fatto. Sono, insomma, una che sceglie di credere a delle ovvie menzogne. E infatti sono cresciuta in una famiglia cattolica. Papà siciliano e mamma calabrese. Cattolica, nel senso che bisognava frequentare l'oratorio, fare la confessione il sabato e andare a messa la domenica. E a parte questo si poteva fare quello che si voleva, anche ammazzare qualcuno, tanto poi il sabato successivo ci sarebbe stata di nuovo la confessione. E quindi io, quando ero bambina, sotto le coperte univo i palmi delle mani e prima di andare a dormire dicevo sempre una preghierina: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, amen. E poi frequentavo l'oratorio, come piaceva ai miei genitori. Solo che nel tempo mi sono resa conto che proprio l'oratorio era un luogo dove l'argomento più in voga era proprio il sesso. E chi non ne parlava era soltanto perché già lo faceva, proprio lì, in oratorio. Ovunque, nei bagni, nello sgabuzzino del bar, nell'auletta del catechismo. E così io, in quegli stessi anni, prima di andare a dormire, sotto le coperte, iniziavo ad avere soltanto una grandissima voglia di toccacciarmi. Solo che non sapevo esattamente come mettere insieme le cose. Masturbazione e preghierina. Cosa faccio? Mi masturbo e poi dopo dico una preghierina? Oppure dico una preghierina e poi dopo mi masturbo? Rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, che poi tanto male a me non sembra, amen. No, allora, presa da tutti questi dubbi e dai sensi di colpa, ho smesso di pregare. Naturalmente mi sembrava che la cosa fosse molto in linea con il modello di fede che mi proponeva la mia famiglia. Noi eravamo cattolici, sì. Però che cazzo, dai, senza esagerare. Adesso. Infatti noi eravamo di quelle famiglie che, per esempio, solo una volta erano andate alla messa di mezzanotte a Natale, perché dopo avevamo tutti quanti convenuto che non era proprio il caso, dai, basta. Mia mamma, in particolare, aveva detto che questa cosa della messa di mezzanotte non aveva alcun senso. Alzarsi da tavola di fretta, mettere i cappotti, uscire fuori al freddo, Ma dove era finita quell'anno, La nostra bella tavola imbandita di dolci, i mille e mille regali da aprire, lo stappare l'ultima bottiglia di bollicine che ti faceva venire l'acidità di stomaco. Noi quell'anno ci eravamo rovinati la magia del Natale, tutto per questa cazzo di messa di mezzanotte, No, la magia, così, a casa mia si dice così, con tante G, perché mia mamma è calabrese. E quindi, nonostante sia da 30 anni qua a Milano, non ha mai perso il suo accento di origine. Un mio amico, che purtroppo non c'è più, mi prendeva in giro, perché quando eravamo ragazzini lui chiamava a casa e mia mamma gli diceva, ma tu sei un amico del teatro o dell'università? Con questo tono qui, questo tono inquisitorio, questo tono tipico da donna del sud, perché mia mamma, appena avvertiva un uomo intorno a me, doveva fargli almeno un paio di domandine, in modo da poterlo catalogare, poi inserire in questo database mentale e successivamente controllare. Perché la paura più grande di mia madre, da sempre, era che io potessi rimanere incinta. E fu per questo che a un certo punto arrivò a millantare pensieri di grandissima emancipazione. E mi disse un giorno a tavola, c'erano mio padre, mio fratello, eravamo in cucina, e mia mamma mi dice: allora Elisa, quando tu farai l'amore la prima volta, devi dirmelo, perché così io ti porterò dal ginecologo e tu potrai prendere la pillola. Però ti prego, almeno aspetta di avere 18 anni. Ok, guardo mio padre, basito. Penso che gli si fosse fermato il cuore. Ugo, che è mio padre, ma non fare così, dice mia mamma. Veramente mamma è morto, non sta facendo nessuna faccia. È proprio morto il papà, poveretto. No, ma queste ragazze al giorno d'oggi sono così, se non gli facciamo prendere la pillola, rimangono incinta in un attimo. Ok, va bene. Io istintivamente lo sapevo che si trattava di una menzogna volta a controllarmi il più possibile. Però io ci volevo credere. Volevo credere che una mamma per amica, con le sue 10 stagioni, poteva esistere. E invece una mamma per amica arriverà solo qualche anno dopo, nel 2000, e le stagioni, sono andata a controllare, sono solo 7. In ogni caso, io compio gli anni a luglio e nel mio 18° anno di età, a inizio agosto, avevo già perso la virginità. A quel punto potevo passare dal toccacciarmi sotto le coperte a del vero sesso, che era molto molto meno piacevole, però era un upgrade necessario. Finalmente ero diventata grande e quindi a questo punto volevo anche questa cazzo di pillola, mi era stata promessa. Perciò, insomma, sono andata da mia mamma e un giorno durante un pranzo, sempre nella nostra bella cucina, con mio padre, mio fratello, le ho detto: mamma, io voglio andare dal ginecologo. Mia mamma, come se fosse caduta dal pero, ha tirato sul la faccia dal piatto, mi ha guardato, mi ha detto: ma fare che, scusa? A quel punto io quella risposta non me l'aspettavo, pensavo che lei mi avrebbe detto: ma sì, dai Elisa, ti accompagno, 1, 2, 3, via, è andata. No, niente, istintivamente capisco che è meglio rimanere in silenzio, sto zitta per fortuna. Guardo mio padre, è di nuovo morto. Poverino, è un uomo vivo per miracolo, il mio papà. Niente, sta zitto. Anch'io sto zitta. Mia mamma sta zitta. Ci guardiamo. Uno stallo alla messicana, praticamente. E dico: mamma, voglio andare dal ginecologo perché voglio parlare con lui. Ma di che cosa? Non ho capito. Di che cosa vuoi parlargli, scusa? Guardo di nuovo mio padre. Niente, silente, sta zitto, non dice nulla. Mamma, perché io voglio prendere la pillola. E a quel punto la nostra bella cucina, piena di sole, con le pentole di rame appese a una parete, lacerata con le ciliegine rosse, si è trasformata tutto d'un colpo in una strada in bianco e nero di un film neorealista, con i camion dei soldati che facevano avanti e indietro, le case diroccate, mia mamma nei panni di Anna Magnani, che inizia a urlare: Ugo! Ugo! Che cosa ha detto tua figlia? Tua figlia è un chiaro segno di disconoscimento della sua genitorialità nei miei confronti in questo momento. Ugo, mia mamma intuisce che le cose stanno molto, ma molto peggio di quanto sta immaginando. E allora inizia a dire: ma perché? L'hai già fatto. Ugo, l'ha già fatto. L'hai già fatto. Ma quando? Con chi? Dove? Sei stata attenta. Sei stata attenta. Sei stata attenta. E a quel punto mi viene un po' da piangere. E guardo mio padre nella speranza di ricevere un minimo aiuto. E mio padre nulla, rimane zitto. No, però a un certo punto vedo un piccolissimo muscolo del suo labbro tendersi in orizzontale. Allora dico: mamma, però scusami, ma me l'avevi detto tu di dirtelo. E a quel punto il muscolo di mio padre, redivivo, non regge lo stress. Si tende fino all'orecchio, mio padre si accascia sulla spalla destra e inizia a ridere. Ride come un ragazzino di 12 anni, ride. Mia mamma si trasforma dall'essere una donna degli anni 50 per diventare uno dei draghi di Game of Thrones e inizia a urlare: Ugo, cosa stai facendo? Riti, i tuoi figli sono come te, è tutta colpa tua, ecco dove abbiamo sbagliato, sono come te. E se ne va, sbattendo la porta. Rimango da sola con il mio papà e mi sento un pochino in imbarazzo. Riesco solo a dire, papà, però me l'aveva detto lei di dirtelo. E mio padre mi dice, Elisa, però dai, anche tu, oh ma sveglia. Non ho mai detto a mio padre di aver comprato una crema volumizzante seno, due volte, né di aver commesso tanti altri errori nella mia vita. Però a volte quando faccio una cazzata ho una voce dentro di me e da sola mi dico, Elisa, però dai, anche tu, sveglia. Grazie. Elisa Bottiglieri! Elisa Bottiglieri! Ma come urli il nome? No, ne mancano due, meno due. Poi... Ah già che abbiamo aggiunto il bastardo a metà. Allora lui è arrivato, che era un bravissimo ragazzo. Cioè... Adesso arriva, si presenta a caso, sì, non si segna sì, più, sì. Dice mi fate fare, faccio 10 minuti, c'ho delle robe da provare. Abbiamo svolto bene il nostro compito. Con un'arroganza che non si vedeva da anni. Abbiamo fatto passare una bella persona a brutta persona. E allora un grandissimo applauso per quell'uomo di merda di Simone Luzzi. Prendo questo microfono da strumento che ho sempre voluto sentirmi sassofono. Grazie. C'è una cosa che chi è esperto di stand-up italiana sa, cioè non si fa mai bere un marchigiano prima dell'esibizione e l'ho fatto, quindi sto per dire una cosa che non vorrei dire, ma lei, signore con gli occhiali, lei mi assomiglia a qualcuno che non so mettere da nessuna parte, ma assomiglia a un l'idea è tipo direttore d'azienda, ma se lei lo fosse non sarebbe qui, quindi a chi assomiglia? No, pure tu c'hai gli occhiali, ma non avrei detto lei, avrei detto te, no, lui è... Lei glielo dicono spesso che assomiglia a qualcuno? Mica tanto. Mica tanto, però questo tono mi fa pensare che comunque imprenditore milanese un po' lo è. Perché sta qua? Ho saputo risponderti anche prima. Te lo chiedono in tanti, quindi la mia impressione è condivisa. Dai, ok, perfetto. Bello sbragato sulla sedia, perfetto, giusta. Mi sbragherò anch'io a breve sul letto quando torno a casa, perfetto. Buonasera, come stiamo? Volevo ringraziare Elisa, che quando ha lasciato il palco mi ha ricordato la mia ragazza, che anche lei ha lasciato me. Vabbè, sì, qualche tempo fa è successo, ma la mia ragazza mi ha lasciato. Per messaggio, cioè no, non per messaggio, ma ci ha chiamato, era urgente, capito? E praticamente che è successo? Era la prima volta che venivo lasciato, che io reputo sia un'esperienza che va fatta tipo a 16 anni, io ce n'ho 23, e è stato strano, anche perché io ho 23 anni, in una faccia che ne dimostra 16, in un cervello che ne ha vissuti 23, capito? Io sono l'unico che sente questa dissonanza. Cioè io tipo potrei mettermi a piangere in macchina, la gente passa e fa tipo, oddio, qualcuno ha lasciato il figlio in macchina. Oh, dove sono i tuoi genitori? Nelle Marche. Ti ho lasciato in Milano, ma che cazzo. No, vabbè, è successo che sono stato lasciato e non sapevo come gestire le mie emozioni, perché le mie emozioni crescendo nelle Marche non le puoi esprimere. Perché se cresci e dimostri emozioni nelle Marche sei gay, che qua a Milano ottimo, nelle Marche un po' di meno. Io l'ho sempre trattate un po' le mie emozioni come la mafia. Faccio finta che non ci siano e se aspetto abbastanza tempo diventa un problema dei miei figli. Devo andare a fare uno spettacolo in Sicilia, ma mi ha chiamato un amico mio, fa, vuoi venire a fare questa? Non la dico. Anzi no, tratto le mie emozioni come tratto... lo Stato, no, basta, che è successo, praticamente Così, sono lasciato, ne parlo adesso perché prima era un periodo un po' turbolento, perché non riuscivo, so chi è esperto, a non guardare le storie di Instagram. Mi sentivo come uno stalker, ma peggio, perché agli stalker gli piace quello che vede. Io stavo là e guardavo le foto di lei che stava sempre con sto amico, che non era quello di cui bisognava preoccuparsi, no? A sapercelo prima gli farei complimenti a questo, perché non sapevo di stare davanti al Winston Churchill della figa, che fa sta guerra del logoramento, no? Sta figa se la guadagna centimetro, centimetro, piano piano, ragazzo dopo ragazzo. E beh, che dire. Ah. Ogni volta che faccio sto pezzo, stai abbattuta qua, arriva sempre uno dopo lo spettacolo che mi dice sempre la stessa cosa, sempre una persona diversa, ma mi dice sempre la stessa cosa e mi fa: oh, bravo, autoironico. Meno nervoso, dalla bocca dello stomaco mi viene proprio un cattivo che faccio: ma come cazzo te permetti? Perché l'autoironia, come tutte le qualità positive di una persona, viene dalla sofferenza. Lo so che tu non credi che io ti veda, ma io ti vedo che stai col telefono, perché siamo in sette qua dentro. Chiudo il telefono, perfetto. L'autoironia, come ogni tratto positivo di una persona, viene dalla sofferenza. Se vuoi essere empatico, devi sapere com'è essere trattati male. Se vuoi avere degli amici, devi fare finta che ti piaccia il calcio. Sì, facciamo il fantacalcio, madonna, ok. E se vuoi essere autoironico, devi essere bullizzato, per forza. Cioè, nessuno si insulta se già non lo fa tutti gli altri. È più un accodarsi al carro che una virtù. Semplicemente un giorno sto là e faccio: sai che è? Sì. Soffroce, mamma, una puttana, qua, c'è una voce così de merda, quando mi chiama la team mi chiama comunque signora. Sì. Non è una virtù. Viene a sofferenza, quindi capisci che se mi fai un complimento per una cosa che viene a sofferenza, non è propriamente un complimento. È come se vai da Liliana Segre e gli fai: oh, bel tatuaggio. Ok, no, niente, basta, basta. No, vabbè. No, sì, sono stato bullizzato e non è stata l'esperienza migliore della mia vita, c'è da dire questo. Mi fa piacere però che se ne sta parlando di recente. Sta parlando un sacco di bullismo, cyberbullismo, revenge porn, bullismo tradizionale, quello non manca mai. Ma non so se ci avete fatto caso, pare che più se ne parla e più se bullizza, non avete fatto caso? Tipo, io sono abbastanza sicuro di sapere perché. Perché facciamo, cioè lo insegniamo nelle scuole, stronzi, è là che sta i bulli. Non li stiamo combattendo, li stiamo formando. Io immagino questi in fondo all'aula, l'aula magna che sta a vedere la cosa e fa tipo: e diffondi le foto online. Non è... Quindi mi sono detto: beh, forse è il caso che io trovi una soluzione a questo problema in quanto vittima. E ho fatto una ricerca demografica. Chi sono, a voi chiedo, le vittime più frequenti del bullismo? Non è una finzione scenica, è una domanda vera. Possiamo... I marchigiani ubriachi. Enrico Veronica, mannaggia, c'è proprio ragione. Però a parte loro... I grassi bassi, stai quasi lì, vai avanti. Tu comunque stai dicendo tutte categorie di cui non fai parte, maledetto. Grassi bassi, eh? Uniscili e rendili peggio? No, però c'è ragione. No, i nerd. I nerd. E ci ho pensato, sono persone potenzialmente vendicative, molto intelligenti, che va d'accordo solo fra di loro. Se si vendica alla fine. Anche perché ora il mondo è governato dai nerd. Cioè, io me lo immagino tipo un ex bullo che se compra una macchina elettrica, ne so, una Tesla, e guida, sente la musica da bullo, sto col culo, ok, e praticamente sta là, guida e fa niente, e sullo schermo compare la scritta: ti ricordi di me? Fuori strada. È un attimo, perché i nerd sono viscidi, e non finiranno lì i droni Amazon con i pacchi bomba? I bancomat che ti sermagna la carta, il bimbi, il robot da cucina che ti sputtana il purè delle patate e tu non capisci: oddio, ma ho seguito la ricetta, ma sono le patate, oddio. Capito? Non è una bella vendetta, finisce il mondo, è tipo Terminator ma peggio. E quindi mi sono detto: come possiamo evitare questa cosa? Facile. Bisogna rendere il bullismo obbligatorio. Cioè, tutti vengono bullizzati, ma anche tutti bullizzano. Insulti, vieni insultato, vieni meni, vieni menato. Non è così che nasce l'amicizia? Certo. ma anche perché, mo, se dovessi fare una apologia ai bulli, una piccola, è che sono molto onesti. Se tu chiedi a un tuo amico quali sono i miei difetti, ti dice tipo, ma no, sei perfetto così, cazzate, non è vero. Invece se vai da un bullo ti dice tutto, perché gliene frega un cazzo di te. Io tipo sentivo sempre dire il liceo sfigato, e me lo sentivo dire quotidianamente, tipo sfigato, sfigato, sfigato. Io stavo, ma io sono grande, ma che dici? Poi un giorno mi sono messo a aspettare l'autobus, salgo sull'autobus e c'era una signora incinta che mi guarda e fa tipo, ah, e me lascia al posto. Io, c'ha ragione loro. Anche perché comunque un difetto è male, ma la consapevolezza è meglio. Capito? Io non sono diventato un figo, sono comunque sfigato, ma sono consapevole. Quindi posso evitare la maggior parte dei problemi che vengono da questa cosa. Tipo, per fare un altro esempio, sentirsi dire ciccione quotidianamente fa molto male al cuore, è vero? Meno di quanto il colesterolo fa male al cuore, però, ci avete pensato? Già, qua stiamo attenti, qua a Valsoia. E quindi ci servono i bulli. Detto questo, faccio una sola battuta per chiudere, anche perché tu c'hai l'occhio di uno che mi sta per gonfiare botte. Ok, questa è proprio la frase uno che mi mena dopo, però ascolto volentieri per menarti con più ragione dopo. No, una cosa sola, praticamente due, da due. Visto, non so se avete visto, a novembre c'è stata la marcia contro la violenza sulle donne a Roma. Come ogni caro uomo di sinistra ho preso parte attiva guardandola su Facebook, e così che ho fatto, e praticamente ero d'accordo con tutto tranne un cartello che diceva Dio è donna. No, Dio in base alla condotta che ha tenuto è chiaramente un uomo. Ha messo incinta una, non si è fatto più sentire, adesso è di ottima reputazione in America Latina, è chiaramente un uomo. Un'altra cosa che volevo dirvi è che quando crescevo mia madre mi diceva sempre che il miele non scade in quanto è stato trovato del miele commestibile nelle piramidi. Capito? Che cazzo di... Io mi sono sempre chiesto che fame che c'aveva il suo archeologo, capito? Che sta dentro una piramide, magari con una lanterna, entra e fa tipo... trova sto vaso, lo scoperchia, dei 50 secoli, e magna con la fame ai disperati, tipo Winnie the Pooh. Poi come lo dice agli altri archeologi che è buono? Fa, secondo me è buono, come lo sai? Mia madre mi diceva sempre, anche spesso... non metterti quando esci il portafoglio in una tasca dove non lo senti, anzi metti in una tasca dove lo senti, così che quando te lo rubano te ne accorgi subito. E io volevo sempre dire, poi? Che ci faccio con questo tempo extra? Rubo un altro portafoglio, come quando cade il cibo, no? Sotto i 5 secondi nel reato. Non lo so, che quando prendi i consigli che non li chiedi va per forza sul generale, no? Tipo l'altra volta stavo al McDonald's e uno mi fa, se ti vuoi suicidare devi tagliarti le vene in verticale e non in orizzontale, così muori sicuro. Io stavo là, faccio, e io avevo chiesto McFlurry, dico, me lo fai, non me lo fai, che cazzo devo... E vabbè, in quanto però consigli di merda, solo le mie amiche sono le regine che mi danno consigli che sono sicuro per farmi arrestare. Ve ne dico uno solo, perché uno basta. Mi hanno detto, se vuoi essere sicuro che una ragazza non abbia paura la notte, e tipo tu gli stai camminando dietro la notte, fai in modo da superarla così che lei capisca che non la stai seguendo. No, che cazzo vi ridete? No, è giusto. Ma se lei comincia a correre, la inseguo, la rincorro, la sorpasso, vaffanculo, che fatica fate sta tranquilla. No, non funziona così. E effettivamente i partigiani potrebbero dover venire bullizzati quando sono ubriachi, gliela faccio mettere il microfono a posto. Detto questo, un'altra cosa che mi hanno detto è stata, segnala la tua presenza. Nello scenario, vi ricordo, sono le 3 di notte, e quindi tipo magari, che ne so, tu stasera stai tornando a casa, non c'hai manco paura. Quello che senti è semplicemente un... e ci sto io dietro e ti faccio ciao, volevo solo dirti, io sto qua dietro, non funziona. L'ultima cosa che mi hanno detto è stata se vedi che una situazione si fa pericolosa intervieni. Io sono 1,70 m per 65 kg, stronza, vuoi che ci stupra tutti e due? No, assolutamente no, io ho fatto judo 10 anni, ho fatto schifo tutti e 10 gli anni, io ho fatto 10.000 gare di judo agonistico, l'unica volta che sono arrivato secondo, manco primo, era una gara di beneficenza, quelli bravi non erano venuti e il primo gli mancava una gamba, che è importante a judo. Quindi ragazze, per chiudere vi dico, se stasera la situazione si fa pericolosa, siete da sole, e vedete me, mi dispiace. Grazie a tutti, buonasera, buon proseguimento, richiamo sul palco Andrea Fadenti e Valerio Ro, i derelitti, padroni di casa, possiamo, grazie. Grande Simone Luzzi! Simone Luzzi! Applauso fortissimo, siamo alla fine, abbiamo l'ultimo. Questa volta è vero, allora, ragazzi. Ultimo. A quanti qui questa serata è sembrata troppo lunga? Sinceramente. Alzate in mano. Alla signora che è la voce della verità. Vai a dare un bacio alla signora. Dai un bacio alla signora. E poi è molesta però. Allora, io vi dico e vi prometto che la prossima serata durerà il doppio. Finiamo alle 2. Per adesso siamo 13. Ragazzi, vi spacchiamo il locale. Ho preso l'adesione anche di Ciccio Rigoli, stavolta. Perfetto, va benissimo. Sì, guarda. Sì, dai, viene. Fanno col dito, ma sì con la faccia. Ma sì, certo. Tipico degli artisti. Chiamiamo l'ultimo, la chicca finale. Vuoi esibirti te settimana prossima? 26. Fra 2 settimane, vuoi esibirti? Fai quello che vuoi. Non lo so. Hai un lato artistico, dai, con questo look sicuramente sei un artista te. Secondo me è un porno dire. Dai. Ma portiamo la pornografia su Alexalge. Harry, la organizziamo. Ci sta scappando la mano forse. Ascolta, tanto mena Harry per il momento. Sì, ma qui il problema non è menare. Io sono una vittima dell'arte da mare. È proprio l'ultimo. È proprio l'ultimo. Voglio essere immolato al teatro. Tu devi morire su questo palco, Enrico. Esibendo e non qui. È così difficile che succeda. E arriva Monica il bis. Un applauso. No. Aspetta, facciamo no, fare l'ultimo e poi nel caso se Enrico vuole salire e fare quello che vuole. No, ti saluto. Oh, andiamo avanti ad oltranza, Henry. Andata. Perfetto. Io non ho più, possiamo fare anche tale. Perfetto. C'è il passaggio. Chiamiamo l'ultimo. Come da tradizione, tutte le volte qua c'è una bella persona, un bravo ragazzo. Lui lo vedete in faccia e dite, poverino. Che bravo uomo. Sì. Che brava persona. Esatto. E fra 2 settimane si ripresenterà con i tatuaggi, con i rasta, i piercing. E vi pisce addosso. Esatto. Bestemmia come un cane. Signore e signori. Alberto Vitale. Qua, direi che la parte più bella sono le presentazioni, comunque devo dire, vado molto fiero, grazie, assolutamente sì, ci vediamo tra 2 settimane per la mitica maratona che sarà il doppio di questa, io invece cercherò di essere breve in modo che poi Enrico possa fare un altro pezzo, o Enrico o il baffo naturalmente, che mi sembra sia insieme. E niente, sono contento di essere qui, siete un po' sparsi che va bene, io infatti vi dico la verità, soffro un po' di agorafobia, quindi va bene, agorafobia come sapete è la paura delle parole greche, quindi spero non abbiano lo uso qua. Mi hanno messo subito dopo il ragazzo che sembra giovane per dimostrare che io sono ancora più vecchio, mi fa piacere. In realtà ci tengo a dire che sono anche più vecchio di quello che sembra, in realtà però io a casa ho un quadro, come Dorian Gray, che invecchia al mio posto, sono molto soddisfatto di questo. Solo che lui è uno di quelli che invecchiano bene, quindi sempre abbronzato, occhiali da sole, capelli brizzolati. E per me è umiliante vedere che il mio quadro scopa più di me. E devo dirvi qualcosa con Valerio, lo conosco, abbiamo fatto qualcosa assieme, e anche un paio di due film, però io ho fatto soprattutto un po' di programmi televisivi, magari vi è capitato di vedermi. ho fatto alcuni programmi anche all'estero, ho fatto Africa Nera Ghost Talent, sono arrivato secondo, però lì ha vinto il cacciatore di teste, che si è presentato con la testa rimpicciolita del giudice, che spero succeda anche da noi. Adesso Federica Pellegrini! Eccomi, ciao, piacere! Poi ho fatto un altro programma in Italia, invece ho fatto, questo un po' più noto, XYZ Factor, che è la versione in 3D del programma. Poi ho fatto, il programma un po' più noti, ho fatto Striscia la notizia, ero la velina bionda, e poi ho fatto Zelig, che ero Claudio Bisio. Che dirvi, qualcos'altro su di me? Si vede, mi vesto male, assolutamente, questo è palese, ma perché compro i vestiti al mercato, quelli da 2 euro, dico la verità, anche se ho il sospetto siano usati. L'ultima volta che ho preso una maglia c'era ancora uno dentro. Non so che... allora sì, ho un brutto vizio, ve lo dico, mi mangio le unghie, ve lo posso dire. È un vizio particolarmente brutto perché le unghie non sono le mie. Animali, lì vedo un cane, è bello, un cane, anche io ho un animale, ne ho avuti 2, a me piacciono avere degli animali molto intelligenti, quindi sicuramente il cane intelligente, io cercavo qualcosa di un po' più intelligente, vi dico la verità, per cui anni fa ho rapito a Genova un delfino e lo tenevo nella vasca da bagno. Sono rimasto un po' deluso, vi dico la verità, perché un giorno gli ho chiesto cosa ne pensasse della teoria economica mondiale e lui mi ha risposto che era palesemente la teoria dell'anno scorso. E niente, poi quella sera dovevo farmi il bagno, ormai era primavera, quindi ho appoggiato un attimo il delfino di fuori. Niente, poi mi piace fare il bagno con calma, vi dico la verità, con le candele, la musica, un'oretta, 2 ore, così. E alla sera ho mangiato tonno. Dopo il delfino ho preso un altro animale molto molto intelligente, vi dico la verità, ancora più intelligente, sono molto soddisfatto di questo, e ho comprato un calabrone. È un animale molto intelligente perché voi sapete che la struttura alare del calabrone in rapporto al peso non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Il mio calabrone è molto intelligente, lo sa e non vola, quindi l'ho portato stasera, attenzione, gira da queste parti, cercate di non pestarlo perché mi si spezzerebbe il cuore. Vi ho detto, sono vecchio, un vecchio di merda assolutamente, e infatti ho 2 figlie, quindi rispetto agli altri sicuramente ho prodotto qualcosa. Ho 2 bimbe a cui voglio molto bene, però li voglio molto bene, e anzi le voglio citare, insomma si chiamano Alessia e quell'altra. Mi hanno fatto scoprire cose incredibili, cose di cui ignoravo l'esistenza, come le 7 di domenica mattina. Una delle 2 ultimamente, devo dire la verità, ha avuto un periodo in cui si svegliava la notte per degli incubi, gridava forte, quindi è stato un po' un problema anche un po' stancante. Adesso per fortuna è tutto passato perché ho comprato dei tappi per le orecchie. Per cercare di far addormentare un po' di più, ve lo posso dire, ho scritto un libro di favole, quindi se siete interessati l'ho scritto in questi giorni, si chiama Favole per dormire. C'è anche la versione, no, c'è anche la versione in cinese che si chiama Dolmile pel favole. E in realtà, vi dico la verità, ne ho scritta una sola, però quando mi avvicino all'oroletto mi piace avere in mano qualcosa di pesante. E stasera vorrei leggervene una, quindi se avete figli o se volete chiamarmi per figli, eccetera, queste sono favole che fanno addormentare, credo sia la cosa ideale, diciamo, a fine serata, dopo una serata lunga, come ha detto la signora, una bella favola per assopirsi nel modo giusto. Allora, questa si intitola Il povero pescatore e il pesce magico. C'era una volta, mi devo mettere gli occhiali perché vi ho detto sono un vecchio di merda, ma oltre ad essere vecchio mi faccio ancora le pippe. Allora, il povero pescatore e il pesce magico. C'era una volta un pescatore molto povero e molto vecchio, con i capelli bianchi, la barba bianca, i baffi bianchi e le sopracciglia nere. Infatti se le tingeva, era il suo unico vezzo. Ogni mattina remava sulla sua barchetta fino a raggiungere il centro del mare. Attaccava all'amo un vermicello squarciandogli il petto e lo gettava in mare, aspettando che abboccasse qualche pesce. Ogni tanto, per fare prima, si aiutava gettando in mare qualche piccolo ordigno esplosivo. Boom! Boom! Boom! Questo era scoppio ritardato. Una mattina vide la lenza tendersi e poco dopo il povero pescatore tirò su un pesce stranissimo, tutto d'oro. Il povero pescatore lo guardò sorpreso e disse: «Cos'ho pescato? Porca troia, che cazzo di culo!» Ma la sua meraviglia fu ancora più grande quando sentì che il pesce sapeva parlare. «Mi hai pescato! Porca troia, che cazzo di sfiga!» Poi il pesce disse: sono un pesce magico e se mi liberi esaudirò 3 tuoi desideri. Il povero pescatore felice accettò dicendo: io ho pochi vezzi, solo queste belle sopracciglia nere. Ma ho sempre sognato di pescare un pesce enorme, un tonno. Il pesce magico allora fece vibrare le sue pinne e poco dopo si vide la lenza tirare, la canna piegarsi. Il povero pescatore cominciò a tirare come un pazzo e con uno slancio che gli costò l'incrinazione di 3 vertebre, crack! Riuscì a portare sulla sua piccola barca un gigantesco tonno. Ecco, di solito le palpebre incominciano a piegarsi in questo momento. Il pescatore guardò soddisfatto la sua preda che si dimenava in spasmi mortali. In uno di questi movimenti però il tonno colpì con la coda la faccia del pescatore e gli fece un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Sembrava un sorriso, ma in realtà era un taglio profondissimo da cui sgorgavano cascate di sangue! E che qua è il momento di calma. Con i bimbi che... ecco, stavano addormentando. Il pescatore, ancora sanguinante, guardò il pesce d'oro ed espresse il secondo desiderio. Ho la schiena spezzata, basta tonni, disse. Voglio che un pesce spada salti qui, da solo, sulla mia barca. Il pesce magico fece nuovamente vibrare le pinne. E poco dopo, dall'acqua, tra 1000 schizzi, si vide saltare sulla barca un enorme pesce spada, il quale, con perfetta parabola, trafisse lo stomaco del pescatore da parte a parte con la sua spada, facendogli schizzare altri fiotti di sangue! Il povero pescatore cercò di tamponare anche questa ferita. Poi si rivolse al pesce d'oro per il suo terzo desiderio. Senti, disse, lasciamo stare i pesci grandi. Fammi pescare qualcosa di piccolo, ma numeroso. Il pesce magico fece vibrare le pinne per la terza volta e subito dall'acqua, verso la barca, saltarono 100-200 pesci piragna che cominciarono a sbranare parti del corpo del pescatore con i loro denti aguzzi. Poco dopo, il povero pescatore si trovò fermo sulla barca, al tramonto, con la schiena spezzata, uno squarcio in viso, lo stomaco bucato e brandelli di carne che gli pendevano da tutto il corpo. Il pesce d'oro allora gli parlò. Vabbè, io andrei. Ho esaudito i tuoi 3 desideri, quindi ora devi lasciarmi libero. Il povero pescatore, con l'ultimo filo di voce rimasto, gli disse: ma vaffanculo, va! E lo colpì con violenza sulla testa con un remo, prima di schiattare e accasciarsi a sua volta sulla barca. Poco dopo passò di lì una balena che si mangiò la barca, il pescatore, il pesce d'oro, e sciolse tutto con gli acidi corrosivi del suo stomaco. Buonanotte. E sogni d'oro. Abbiamo finito, Alberto Vitale, un grande applauso. Alberto Vitale! Boh, stavolta ce ne andiamo a casa davvero. 2 ore abbiamo fatto, 2 ore secche qua. No, meno. Quanto abbiamo fatto? C'è un altro 20 minuti e arriviamo a 2 ore? Allora, Enrico, secondo me ce li ha ancora 20 minuti. No! Guarda. No, non vediamo il pubblico. Hai una fiaba anche tu per la buona... Così, un cadeau che ci fai... questa sera un po' particolare. No, salutiamo il pubblico, è stata una bellissima serata, perché rovinarla? Esatto. Non ti alzare, non è ancora Veronica, finita. Non ti riconosco più però. Scherzando. Non ti riconosco più. No, una volta ci avresti tenuto qua un'altra oretta e un quarto. Esatto. Ma per dire una battuta, tra l'altro. Tu vuoi che si dica in giro che a Milano Enrico non è più l'Enrichetto di una volta? Ma voi già lo dite. Questo tavolo qua e non lo guardo. Loro... È probabile, Enrichetto, è probabile. Bene, signore, è stata una serata bellissima, caldissima. Un bacetto sulla testa. Da un bacetto. Fatti dare un bacetto sulla testa, Henry. Baciami. Che bella testa che hai. Mamma mia. La preferirei un po' più pelata, però. Cosa vogliamo ricordare agli amici? Ah, già, i soldi, bastardi. Fa una roba, chi è che... Aspetta, digli te che sei diplomatico. Chi è che vuole andare... buttarlo, sì, su un tavolo, ascolta, centrale. Chi è più bello? Sei te più bello. I soldi li danno a te. No, a me, ma in un giro. Questo sarà per le persone che prima di abbandonare la sala con molta delicatezza, cioè, senza far sì, ma senza far vedere quanto mettono, che è un po' una cafonata. Sai che ci daranno 30 centesimi se va bene. Vabbè, va bene, ma 30 lei, 30 lui, 3. Io non ho capito, scusami. Qualsiasi tipo di valuta. Sì, valuta estera, straniera, noi cambiamo, non c'è problema. Anche i bitcoin, signori. Golden, golden. Penso ci sia. Pardoni?